creare sempre problemi. Ciao Luca, ciao dottore. Ciao, sto dicendo. Ciao Gama, buonasera Luca, per ascoltato. No, un attimino, scusate. Ascolta, buon culo. Ma quanti sono... Ciao a tu e anche a te. Ma quanti sono il... il fusibile del tappeto del baracchino? No, quanto sono? Quanto è? Due e mezzo? Mezzo, sì. Va bene, mezzo. Cinque watt, va bene. Se poi io faccio a 15, come dire, ci vogliamo meno 2,7, quasi 3, da. Allora è proprio bene, bene, bene. Perché quelli da tutti sono tutti bruciati, perché la vedete, no, ho aperto praticamente c'è lo spinotto, no? E ci va l'acqua dentro, ma proprio si spegne, no? Allora ho aperto un po' di ossetti qui, si è capito di cosa sto parlando. Tu vedete i fili, come vedete i fili, ma ho messo un fucile e pum, è scoppiato. Cioè all'ultimo sono già qua, facevano tutti invertiti, poi tutti quelli come era tutto duro, tutti bruciati, con cambri l'ha usato. Comunque la mi dice, ma anch'io da 10 watt circa, 10 watt e l'altro è mezzo, va bene, perfetto. Ok, allora li compro l'affusato, quanto costeranno qualcosa? Costeranno 2 euro, quanto costeranno un pacco di fusibile, non costeranno molto, la verità. Ma c'è una cosa di vendono a me, la Eto più, non so, da bricco, ma mi sembra ci sono anche. Ok, allora come io so parlare queste cose, è pagato. Mi senti Luca, il dito più veloce del 2S. Io non so come faccio a capire che uno sta smettendo di parlare dei tac lì dentro, di gruppo, bianco zero. Luca. Io sono dito veloce alla frequenza, vabbè, non sono io, ce ne sono altri. Io aspetto un secondo, 2 secondi, altro più prendo io, ce l'ho più da anche a te. Non è fatto di essere dito veloce, ma non sto parlando, come ne dimentico. Chiamato Giuseppe, avanti Giuseppe per Luca. Ero salutato. Oh Luca! Non posso andare anch'io, dimmi! Stamattina sono sceso giù a quel posto là, hai capito? E c'erano posti per Porro Torres e Colongiano, su tutte le zone del paese, però per Sassari, comune di Sassari non ce n'erano, niente, zero. Io sono in Galattoria, prendavo al comune 6 mesi, sono loro in posizione, loro, e ho aspettato la chiamata. Capa, io ho cercato quella persona là stamattina, era in ferie, capito Luca? Aspettavo che mi chiamino, capito? E poi si vedrà, la esce. Io comunque ti mi sento e mi avvicino, vediamo un po' cosa mi dico. Perché se prima di me passa gente che non è sicuro, ok, ma c'è qualcuno che è 12esimo, 13esimo, se la prima prima gli faccio un casino vero, magari, quello è il casino che faccio io. Io ho fatto un casino perché l'ho sesto l'anno scorso, lo fanno aspettare. Ma da gennaio a febbraio come ha chiamato un mazzo, pensa a lui. Cioè di anni a qua, di anni non mi chiamano neanche, essendo sesto, quindi ti aspettava di diritto. C'ha ragione. Così, hai capito? A me è corretto, con l'unica domanda che mi hanno accettato era quella di quella del coso agrario. Oh, l'unica domanda, in quelle 5 domande che ho fatto, l'unica che mi hanno convocato è quella là, di agraria, che il coso era solo per 2 persone, hai capito? No, riprendi uno, anche noi accetto, riprendi tu un burà, per girare, arrivo subito. Lo sai Giuseppe, io ci sono in contatto lo stesso, quindi mi farebbe un bel allerta, mi fanno le domande, ci sono come si chiama, i sindacalisti, dopo i sindacalisti ci sono i politici, quindi capito, uno fa paura all'altro e E gli altri ce l'hanno detto, come tutte le cose, d'altronde. Anche quando ho fatto la domanda io per la pittura della casa, mi sono passato due volte incontrate, alla fine poi sono andato a pietro casino, mi hanno dato il finanziamento per due anni, infatti sono stato due anni in qualcosa. E quella del comune ha fatto la fece di truffa e quindi risultato che io in pratica dovrei aver ritirato 9.000 euro, non sono mai esistiti, capito? E niente. Io sono venuto per 9.000 euro quando non ho mai girato la cinta dal comune. Hanno tentato di fare il causa dal comune e non ci sono riusciti, la mia parola in casa, per questa truffa qua. Perché passano un sacco di anni. E quindi è passato tutto in giudicato. Riggs per me, ma. È fatta. Ma te l'ha risolta quella questione che ti ha arrivata? Ma quanto ne hai per l'assistenza sociale? È arrivato il coso ieri, come si chiama, la cedola bianca della comandata, quindi ha ricevuto tutto, ha firmato anche lui, quindi tutto a posto. Adesso devo aspettare per sapere le cambiature che devono fare, capito? Sì, ma non quello della cosa, di quella bolletta che ti è arrivata, Antonè, quella della BBS per la tassa in fondezza. E quella purtroppo devo pagarmela, perché se mi metto l'avvocato ce ne spende il doppio, e quindi per 100 euro cagate guarda, me la pago, se la piglia in culo. Figurati, quando una è così e così, non hai capito, quando una è tolta, dopo 5 euro non può soffrire, capito, ancora di quei 9.000 euro famosi, voleva inculare a me, invece è rimasto inculata lì, il discorso è quello. Utilizzate un altro fraggiario. Chi è che vuole entrare? Avanti. C'è gente che ti ascolta, o ci vuole parolacce. Comunque buonasera, mi compugno. Buonasera. Guarda che non ho detto nessuna parolaccia, sono cose addirittura che si sentono in televisione, caro mio, ormai queste cose si sentono in televisione, altre se ne sente anche di peggio addirittura. Io la dico nei film, ormai i bambini ne sono più di te. Quando ti devo mandare a quel paese, è stato quello che non ti pigliava a parolacce lontane, no, a parolacce pesanti. Quando avevo 14 anni io, ogni schiaffo ci uscivo da tappate, adesso invece le cose sono cambiate, ormai i ragazzi di 12, anche 11 anni, 14 anni, se ti devono dire qualcosa te la dicono, perché la sentono nei film. Quindi vai, infatti siamo tutti in teoria. O per bene o per male, le cose le sentiamo. Comunque Luca qua, copiate e salta, rimonta lo zero. io sto facendo con quella antenna a canale a pesca, mi pare che quella antenna lasci così com'è e non toccare più nulla di non ci, perché sto facendo arriva la cremuccia con quella antenna, vi dire che è meglio le bazzuccane. Cosa vedete, eh? Anche Luca sta facendo, dice che sente benissimo. Solo che Luca magari ha proprio l'eccezione, come c'è anche Giuseppe. Perché la volta, io con quel saluto ho sentito benissimo qua. Tu non ci devi neanche essere al posto di lavoro, perché sennò è inutile che ti facciamo le prove usate, le chiediamo tutte le cose del registro, quello dove assume e dove no, il libro che assume, capito, quella roba lì, se le facciamo un piccolo verbale, poi vediamo un po' cosa succede. Che fatto che tu dici che di là sono solamente acconti di 10 euro, 20 euro, cosa del genere, sta tranquillo che si paga quei 3 mesi tutti interi, più quello che si deve pagare, capito? È l'unico modo, fai come ho fatto io e vedrai che lui tira un bel po' di soldi, anzi prima paga l'Inps, ma è tutto, dopo l'Inps ci passano i costi, gli stipendi, quindi a fotti di dinni, già recuperi quei soldi. Ti deve dare 3.000 euro, forse 3.000 ti deve dare 6.000 o 7.000 e tu sei tranquillo. Se tu vuoi, lui invece ci rimette le cose, il prossimo anno vedrai che lui la parte non ce l'ha più. Cappa, mega, vabbè, dai, fai girare, dai. Antonio Grotte, ci sei? Non c'è. Chiama a Gianni Chiaramonti, se c'è, se fate il colpo, a lasciare a lui, dai. Gianni di Chiaramonti. Mettiamo le bobine che mi ha portato sta fatto, lo mettiamo nel, nel come si chiama, vediamo se fa effetto. Dopo lo spirottino, anzi prima dello spirottino lo mette anche l'aggeggio, il positivo della canzone, mettiamo uno di quelli e vediamo se si libera quel rumore. Sì, perché sono passato a Gigi Burca, mi ha mandato due cose, che una specie di dico, però io ho fatto come mi ha detto lui, però si sente lo stesso, e lo mantesse, uno era il codo di computer, il capo del computer, l'ha sbucciato quel codo rotondo, quello lì, io ho avuto, l'ho fatto girare quattro volte, e ho messo in moto, però fa lo stesso difetto, e sempre si sente questo rumore della, dentro l'apparato. E vediamo di mettere uno di questi, vediamo se fa, se no possiamo la dirti. Intanto c'è un'accensione, si sente quando quando acceleri il tirato, all'inizio di luce, compri le candelette con le tappole da mettere G, nella macchina tua, così si vede tutti i problemi. E lo stereo invece è stato dry, ho lasciato così come quello vecchio. No, devo piazzare un altro del parassone, devo piazzare, capito? E l'altro me lascia perdere, mezzo partito. Devo piazzare il parassone e devo comprare i capi, costano 38 euro giù da ENA. E che capi devi comprare? Ma lo spirotto devi comprare con i cavetti oppure devi comprare i capi quelli arancioni? I capi per fare della meditazione, capito? Ah, gli spinotti sono la tazza vera. Ecco, lui costa 38 euro da... è solo lui ce l'ha, che lui è contro assistenza Paione, hai capito? No, è Paione che parla, e allora sì, purtroppo il Paione è un casino. Fusano non ce l'ha quel cuore, mi sembra strano, prova a chiedere a Fusano. Però che mi ha mandato lì, mi ha mandato da Corso, da Giovanni Fredaneta, e sono andato e mi ha detto passa dopo Ferragosto e mi porti lo stereo e vediamo un po', tiro questi capi e vediamo un po' come fare, capito? Ho capito. Tu vai a mangiare adesso, Antonello? E adesso vado a mangiare, mi ti sentiamo a fare così, ma già che tu sei tranquillo, poi già rientro. Vabbè, dai, ci sentiamo più tardi, dai, ciao. E a più tardi, ciao. Attenzione Claudio Sparviero, attenzione Sparviero. Attento, stazione del Molo, senti partito, cambia. Intendo. Apparogeno e K positivo, dai. Sono entrato giusto perché ti ho ascoltato e sentito, dai. Io sto facendo un attimo di bianco per carica, dai, ci si riascolta. Ciao, Mirogen, ci riascoltiamo, dai. Se non vado errato c'è anche Grone, c'è Grone che a te ci si riascolta, dai. Su QRT per carica, dai. A dopo, ciao. Ciao. Sparviero, ben sentito e ben ascoltato, 7-3 e anche 51. Ciao Anto, buonasera, ben sentito. Allora? Tutto a posto, niente in ordine. Giornata tranquilla, serata, Giovanni, ti devo dire la verità, ho passato un bellissimo pomeriggio a casa di un amico che ha la fortuna di avere una piscina, mi sono scaldato bene la faccia e niente, e adesso diciamo serata in discesa. No, io oggi non ho acceso il radio il pomeriggio, ero a casa, ma completamente tutto svelto. Sono diventata poi una cosa troppo morbosa, ho acceso adesso la cena, una volta, e poi spengo di nuovo. Sono contento che ti sei divertito. Sono stato nella radio, non ci credo che l'hai tenuta spenta, perché non è che è una cosa morbosa, è una passione, non si seda così, dando una manopola, quindi non mi convince. Poi ben vengano le cose morbose come queste, assolutamente, secondo me sono solamente sane, quindi sono ben altre cose che sono morbose, e sono belle lo stesso, però ripeto, magari non quanto la radio. Ma no, spenta completamente, ho acceso un attimo lì a terra, ho fatto un paio di passaggi, 40 metri e basta. Questa era tutta la sera spenta, non so chi c'era, chi non c'era, non so niente. Quando sono entrato, quando ho aspetto la carta, ho acceso questa e ho sentito a Gianni di Chiaramonti con Giuseppe e basta. Non ho sentito altro nessuno e mi sembra che sia anche a te. Perché ci sentiamo dopo. No, io avevo voglia, sono stanco molto, un giorno lavoro e sinceramente non avevo voglia, ma quindi avevo bisogno un po' di rilassarmi senza sentire chiacchierette e allora l'ho tenuta spenta, o per meglio dire accesa col volume a zero, quindi non ho sentito altro che a te, a Gianni con Giuseppe e basta. E questo è stato intorno alle 8. Va bene. Benissimo, non va bene, va benissimo. Sono contento perché secondo me, perché si sta avvicinando l'ora X e quindi non posso che essere felice assolutamente, perché si sta avvicinando lunedì, perché rientra la contabile, che la chiamo la contabile, che altro non è che la mia commercialista, e niente, quindi avrò finalmente in mano quei fogli e potremo fare la prima seria, vera, grande riunione, assolutamente. Ok, va bene, facciamo questa riunione, così ci vediamo un attimino, si decide che cosa fare. Ok, Falchetto si è sentito. Falchetto ha tenuto banco tutta la sera, egregiamente ha portato avanti lo standard del canale 10, davvero egregiamente, ho fatto un ultimo QSO con loro, veramente sempre zona Osilo, non so più su la chiesa di Bonaria, chiaramente per provare l'ennesima antenna alla fine, che tanto piace a Gianni di Chiaramonte. Infatti dal presupposto che è una promessa che manterrò con tutte quelle che faccio, è quella di aiutarlo una volta che gli arriveranno i pezzi per la stazione radio. Assolutamente, mi metterò nella condizione di farlo uscire da quel buco, perché oggi stava uscendo discretamente, quindi evidentemente qualcosa ha fatto. È mio impegno quello di aiutarlo a costruire una buona stazione radio. Vabbè, ma secondo me non era a casa sua, perlomeno quando l'ho sentito io non era a casa sua, c'è che era in macchina, così ha detto, così ho sentito qui, non so, io poi ho passato il volume, ti ripeto, me ne sono andato un po' da, adesso no, a chiacchierare. Ma questo te lo detto alle 8 quando ho spento l'HF. Poi non c'ero in tutto il gioco, sono rientrato per le 3:30. Forse quello lì, sono sdraiato, non ho letto, adesso le 5 ho acceso la radio. Ok, va bene. Devo comprare anche, sono indicato, devo comprare batteria a questo Tarma più 3. Invece l'ho misurata, ed è sempre carica, è 1.5 anni così da batteria. Manco batteria consuma sto microfono. No. Sarà. Va bene, il resto di tocchiello. Niente, non ho questo in merito. Oui. Simo Alessandro, mi hai sentito, mi hai ascoltato, siete tre in compagnia delle rose del grande Sparviero. Avanti Sparviero per Alessandro. Buonasera Alessandro, ma io non ho sentito manco la voce. Alessandro? Uscia di tu, Alessandro. Tanto! Daniele, non mi prendere in giro Daniele, perché stai facendo la voce ad Alessandro, Daniele? Alessandro, pure. Perdonami. Avanti, Daniele. Ecco, allora, poi diciamo che sono sordo, Ma se l'Alessandro lo sto pensando io, lo vorrebbe questa radio. Facciamo un po' il volume e basta, perché quando parlano dello Sparviero bisogna abbassare, oltre che la testa, anche il volume. Oh, saluto a tutti comunque, dai. Ciao Daniele, buonasera, mi hai sentito? Tu dici che cosa devo modulare io, se vuoi attacco il microfono normale. Ho un tono più 3 a 1. Tu già non l'avrei messo 200. Se vuoi ti attacco, non so, la 48 col microfono normale, ma è forte lo stesso, perché c'è il doppio modulatore. Io non ho radio che riescono bassi a tu, cosa ti dico che ti dico? Ce l'ho 1, tono più 3. Ciao Daniele, mi hai sentito? Ho detto, se con Alessandro lo sto pensando io, questa radio che sto usando adesso la vorrebbe così chiara, così forte e così pulita. Capito? Se quello che sto dicendo io, poi non so a chi ti stai riferendo. E allora Daniele, che si dice? Buonasera Claudio. Buonasera, chi ha salutato? Claudio. Tu sei Gesù, ti ho riconosciuto con questo baracchino. Ciao, buonasera, ben sentito. Ma è un po' stanco, Giuseppe. Un po' stanco. Stanco dal lavoro, ogni giorno combattendo, perché mi voglio avere in ferie. Quindi sto terminando delle cose, domani c'ho nulla da continuare a sistemare e poi finisco Sydney e me ne vado in ferie finalmente, perché ne ho le palle piene. Comunque, saluto la Gigi Vulcano, che mi ha mandato i saluti. Stava aggiustando, stava provando di mettere a posto un microfono a tavola, il Tarma più 3. Ah, quello che gli ho dato io. Era ora che ci metta le mani a sistemare quel microfono, poi non c'è niente a sistemare, sta mettendo il cavo nuovo e il connettore deve mettere. E quello gli ho dato io e sto usando il gemello. Ok, comunque c'è Grode e c'è Daniele. Avanti Antonio Grode per Giuseppe. Mi ha ascoltato Giuseppe Leoncino, tra l'altro l'ho ascoltato e sentito piacevolmente tutta la sera, però evidentemente di augurarmi una buona serata. Ti ripeto, quando c'è lo Sparviero tutti gli altri sono nessuno, evidentemente. Quando c'è la voce imponente dello Sparviero tutti vengono cancellati. No, non è quello tu. Sa che con Claudio ci conosciamo, conosco prima di te e dunque me lo posso anche permettere con Claudio, che abbiamo un rapporto di amicizia più del dovuto, capito? Ci conosciamo da ragazzini, dunque non ho, me lo posso anche permettere, capito? Ma di amore direi. No, assolutamente sì, ma infatti hai salutato solo e sempre lui perché ci ha messo in ombra, è quello, ma sto scherzando, Giuseppe, assolutamente. Comunque mi hai sentito, mi hai ascoltato, poi noi è tutta la sera che stiamo facendo QSO, non ci siamo, basta che ci salutiamo una volta all'inizio, poi la fine sarà stasera. Ti lancio Daniele, avanti Daniele. Ciao Gava, buonasera Giuseppe. Ciao Daniele, ben sentito. Tutto a posto, sì? Tutto a posto, niente in ordine. È entrato da poco da lavoro. Ok, rilanciamo la torre di controllo. Ok, K. Claudio. Un secondo, sono preso. K, vai Antonio. Allora, mi hai già fatto carica Leo 5. K. Sì, ma non sei in barra mobile, no? Ma no, sono a casa. Perché sei mi qua sotto? Aspetta che c'è una bassa. Ehi, ehi, andare. E allora, non ci dice? Dove ti dica? Niente, nulla di particolare. Stiamo cercando di... Di facilitare una questione che non riesco a tirare le piede, che Claudio sa. Telefonate qua, sì, vedo, vieni domani, vieni dopodomani, intanto non lo so neanche io cosa pensare su domani, spero di scenderci di persona e chiarire tutto quanto e farmi dare la questione che mi spetta, se me la vuole dare, se no io passo all'altro attacco. Così è. Ma come è buono, come è cattivo, no? Beh, Daniele, o devi uscire buone, oppure puoi uscire cattive. E dunque, è una questione che io la devo risolvere, capito? Ma non per il fatto dei soldi, no. Non per il fatto dei soldi. È solo per la presa per il culo che mi ha fatto, capito? Così è, purtroppo. In qualche modo bisogna tirarle fuori. Caffa, dai, vabbè, dai. Ti rilascio nuovamente Antonio, il presidente, per il sì, Grote. Forse si è allontanato anche lui che era al telefono. Buon, Anto! Al telefono, prendi tu, arrivo subito. Sì, allora, fate pure. Andale! Io sto aspettando che qua sia pronto e poi vado a fare un po' di carica. Ah, è vero che tu sei arrivato adesso e non hai neanche avuto il tempo di mettere qualcosa sotto i denti. No, sono rinfrescato quando sono arrivato e niente. E poi relax totale. Interventi ha fatto, Daniel? No, oggi era anche troppo tranquillo, e quando è troppo tranquillo c'è da preoccuparsi, che poi arriva la mazzacca. Sai, è di solito le ambulanze, quando non succede niente, devono stare allerta. Così è. Già un paio di volte è successo. Tranquillo, e poi mandiamo una mazzacca, un po' di grazie che vale per 20. Stasera lì a Coso, come si dice, alle luci gialle, nel rifornitore che c'è lì, di fronte a Unida, c'erano due pattuglie di polizia, uno ai vigili urbani, due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri. Ho detto, cazzo, cosa cazzo è successo? Ho pensato a qualcosa di male, hai capito, qualche rapina, non lo so. Ma lo so, è una cosa che ho sentito, vabbè, ho letto su Facebook un incidente che è successo, un paese qua vicino, una ragazza di 15 anni è morta. Poveraccia, una bambina. È macchina con la zia era. Però nel caso non si sa, infatti c'è andato l'elicottero lì e ci sentono anche le ambulanze lì. Per stare sempre in tema, un attimo di pace ciò. Vedi, esci da un ascolto e senti l'altro. Manco, no, Daniele. Non me ne ricordo dal suono, va. Non ne manca una, E lì sono micidiali, capito? Vanno e vengono, non è come il paese di Olmedo che... Ma di una cosa, quando fate un buon intervento lì a Olmedo, o qualche quando vi cade, che ospedale portate? Quello di Alghero o di Sassari? Delle volte diciamo finiamo sempre Alghero, lasciamo Alghero e poi ci pensano loro eventualmente a portarla a Sassari, capito? Poi non so se campaneggia l'Argentera e finiamo a Sassari direttamente. Eh beh, giustamente, la strada più vicina, no? Sì, anche se molte volte ho controllato il pronto soccorso e poi ho trasportato a Sassari, però fanno prima andarci direttamente a Sassari e via. Beh, quello è giusto, anche quello. Ma ce l'avete sì la Guardia Medica lì a Olmedo? No, non c'è nulla, no. Infatti stiamo cercando di aprirla, di fare qualcosa, perché diciamo questo livello di Guardia Medica è proprio abbandonato. Troppi servizi mancano in quel posto. È una cosa vergognosa, cazzo, una cosa, un paese come Olmedo non c'è una Guardia Medica, cazzo, che è allucinante. E a chi era? Claudio che ha ripreso. E infatti molti vengono tutti da noi, perché cioè qualunque cosa vengono da noi, è per dire che molte persone vengono anche per la puntura di zecca, ma non ci possiamo fare niente. E come fai? Sei portato alla Guardia Medica col medico, sei potuto risolvere lì, invece siamo fino all'ospedale di Alghero. Giustamente il posto più vicino ospedale diciamo che è Alghero. Cosa strana che qua la Guardia Medica c'è anche a Fertiglia, hai capito? Allora, è una cosa che proprio non... c'è anche a Fertiglia la Guardia Medica, perché mi è capitato una volta a me di sentirmi male, vabbè, ero a Fertiglia, tornai in Fertiglia, mi sono sentito male, mi hanno portato in questa Guardia Medica e mi hanno fatto bere questa cosa e dopo una mezz'oretta mi sono ripreso, hai capito? Infatti ci vuole, vabbè, Fertiglia essendo vicino al Ghero, magari l'afflusso di turisti e tutto quanto hanno messo, ma ormai la gente avrà già 4.000 abitanti, è grande, eh. Credi, Cla? Sì, ma non è vero che ti ha schiacciato, non so chi è, avanti che vuole entrare. Uno che era in quel Rix, ma evidentemente gli stacchi molto ravvicinati a volte non permettono di far entrare. Ho visto il segnale, è sembrato, sì, sono rientrato, è sembrato Claudio dal segnale. Andale, chi è che vuole entrare? Avanti. Spagliero, ti faccio parlare con il mio uro, Spagliero. Comunque non vedo io, sto ascoltando, buonasera. Dicendo, scusate, che gli stacchi ravvicinati non permettono alle persone di rientrare o di entrare, evidentemente. No, non connetto, tanto non so cosa stai dicendo. Ciao Luca, vedi, sarai l'ultima persona proprio che non fa parlare. Oramai hanno tutti i segnali e segnaloni che ci sono. Quindi intanto non mi trattengo molto stasera, non mi ho giocato. Sono stanco morto. Però non è buh, non capisco perché non l'abbiamo fatta a Olmedo, visto che è in mezzo. Una Guardia Medica ci vuole lì. Sì, infatti, adesso da quando c'è la nuova giunta, il nuovo sindaco, stiamo cercando di farla in qualche modo, è che ci vogliono fondi ed è un macello, e organizzare un po' perché è isolata, troppo isolata, capito? Troppo isolata, sì. Troppo isolata, è un bel casino, non lo so. Avanti Luca, se vuoi entrare, siamo lì per il tuo Antonio Grotte. No, stavo dicendo questo, scusatemi, volevo dire che un attimino di bianco fa un passaggio e l'altro, mettere nella condizione che vuole entrare di entrare, o se c'è qualcuno in quel RX nel caso di rientrare. parlando di guardie neri. Ah, perché ne manca una almeno, ma se non sbaglio l'avevano tolta anche a Platamona alla rotonda un periodo. Vabbè, adesso l'hanno tolta, ma c'è la postazione Stefan, tu lì per la mano il servizio d'ambulanza c'è, capito? E bene o male, però lì serve tutto l'anno. Lì ad esempio c'è una postazione estiva che ha salvato tantissime persone, perché io ricordo quando avevamo il casotto di persone semi annegate, ne hanno riportato in vita, comunque assistito fino al pronto soccorso di Sassari parecchie. Oh vabbè, sei successo un intervento l'altro giorno tu, che in un pronto soccorso un dottore un po' entrava in panico e noi diciamo, insomma, operatori del 118 non ci possiamo sostituire a fare gli infermieri, per un paziente eravamo roba di 10 persone, eravamo tutti nel panico, tutti. Lì perché secondo me all'interno di una guardia medica ci vorrebbe un medico, se non si chiamerebbe guardia medica, un infermiere professionale e dopodiché tutta una serie di operatori come voi che è di assistenza, capito? Lo so, Antu, però, cioè, guarda, eravamo a bocca aperta, 10 persone, c'era, dottoressa, chi c'era? Anestesista, tutti, cardiologo, tutti, di più, di tutto di più c'era, più noi, un casino totale era. Devo dire, ma sai fra l'altro quanto prende un medico per fare 48 ore in guardia medica? Già lo so, una barca di soldi si prende, un bel di soldi. Hola, Brecco. Registrato il Brecco. Guarda, buoni buoni, aspetta, mi avevo detto, se non sbaglio, intorno ai 200-300 euro a giornata. Per un 48 ore prendono 500 euro, cioè due giorni, quindi due giorni e una notte. Sono così, 250 euro al giorno sarebbero. Quindi ne fanno, fai che ne facciano 4 al mese, sono sistemati e prendono uno stipendio da una persona che si deve sgarrare il cosiddetto per 6-7 ore al giorno. Comunque registrato il back, se non sbaglio, Antonello Barracuda, avanti. No, è sbagliato, buonasera Antonello Barracuda. Ben sentito, 7-3 da parte del Grotte, avanti, sì, in compagnia di Claudio Sparviero, di Daniele, anche detto Danny Boy, e dopodiché di Giuseppe Neucci. Avanti Daniele per Barracuda. Ciao Barracuda, ben sentito, buonasera. Dai, riprendi per chi c'era, Giovanni. Giovanni Daniele. Sì, da ieri che stai chiamando questo Giovanni, ma perché? Oh, veramente Giovanni. A Danny Boy di Trainspotting. Chi? Danny Boy, è un personaggio di Trainspotting, un film. Comunque, buonasera Sparviero e buonasera Leoncino. Caffa, ciao Torei. Ben sentito? Tutto bene? Mi sono rientrato verso le 8:15 e ho mangiato, ho preparato il pranzo per domani, pulito il tavolo, sistemato tutto e mi sono seduto adesso. Capa, hai fatto bene. E domani un'altra giornata di trabacco. Eh sì, anche domani è un'altra giornata da affrontare. Comunque, ma adesso mi siedo, ho detto, parlo con qualcuno. Ora, sembra tutto a posto, comunque sono contento. Sparviero, non ho sentito niente. Sono qua, ciao Antonio, buonasera anche a te. Non è che ne abbiamo molta voglia, sono un po' fuso, vi chiedo per me se quel Rick, se ci sentiamo dopo, se ci siete. Riprendi tu, Antonio Grotta. Di Rogero, secondo me urge che lo Sparviero vada in cosa, in ferie, assolutamente. Sento un po' giù di tono, vabbè che ho già fatto un po' di caldo, era un po' afosa la giornata. E allora, Antonella, racconta. Niente, quando c'ho la possibilità, rallegriamo a Sparviero che gli porto il vino, così lo faccio un pochettino più allegro. Credo che sia stato proprio il vino che ti ha fatto male le panza ed è per quello che è così. Mi hai attaccato? No! Aspetta, prova a ripetere la frase, credo che sia stato proprio il vino a fargli male le panza. No, non credo, no. Il vino va a felicità. Certamente ce n'era poco allora. Bisogna colmare, capito? E allora, comunque, Leucci, grazie per quel consiglio. Adesso mi dai capi, Antonello, e vediamo di mettere tutto a posto nella PM, perché stava avendo un piano di massa un po' strano, nel senso che veniva interrotta ogni tanto. E soprattutto i cavi non erano adeguati. Cappa, vedi Antonello, avanzo. Se tu non fai quella cosa là direttamente alla batteria e ci metti un portafusibile come Dio comanda, con un fusibile grande, no, lo stesso conto, lo sbaglio che ho fatto una volta io, di prendere la corrente e te la accendi i sigari, e sentivo sempre questa cosa accanto che modulava male, arrivava basso, mi si spegneva la macchina e tutto quanto. Ha detto, beh, ma intanto mamma, mi sembra strano che questa cosa non la devo risolvere. Ha detto, beh, Antonè, facciamo una cosa, io preparavo i fili, i cavi, il portafusibile e stiamo facendo l'impianto direttamente alla batteria. E così abbiamo fatto una... Ci abbiamo impiegato, sono andato la sera al prezzo alle 3, abbiamo finito alle 6 e qualcosa, poi siamo andati al circolo che c'è lì a coso dell'albergo, alberghiero dietro, e ci abbiamo bevuto una cosa. Ma tu? Guardami, dimmi. Bisogna trovare la soluzione, che stavo pensando di metterlo in macchina adesso. Giustamente, se ti serve una mano, conta pure su di me. Brava, però sto pensando di prendere una magnetica almeno, fissa no, eh. Ma se io adesso l'ho messa fissa, l'ho sostituita a quella dell'antenna, se della radio, se tu vedi quella che ho io, non sembra un'antenna di 27. Ma passa molto inosservata, eh. Eppure se trova una buona massa è spettacolare, te lo può confermare anche Claudio, perché da Porto Torre ci arrivava una bomba. E sì, capisco che nella macchina nuova non si è disposto a fare quelle cose, però la magnetica è una rottura di scatole. No, sai cos'è? Che io ce l'ho posteriore all'antenna, non so la tua se lo stesso è come la mia, cioè al centro quello posteriore. Ma guarda, Antonello Barracuda se l'ha sostituita nella panna lo stesso, lui ha esagerato perché si è messo una 2001 e vedi prima l'antenna della macchina. E nella mia, già lo sai che la macchina è più grande l'antenna e la macchina alla fine. Se ti va di spendere qualche soldino, io la mia l'ho pagata 18 euro, ed è la LEM, la vende Fusaro, ed è la Z2000 mi sembra, una cosa del genere. Comunque è una bomba, l'unica cosa non ci puoi caricare più di tanto perché sennò si arroventa. Allora, con un apparato normale, quello piccolino. Ma tu non l'avevi visto, io adesso da poco ho preso questo Intec M120 Plus, che costa 69 euro, che ha tutti i canali, tutti. E niente, sto usando questo. L'Intec 120 Plus, ma cos'è? Veicolare? Oh, ragazzi, veicolare sì, scusami, veicolare sì. Ho capito. Tutti in che senso, sopra e sotto? Sì, tutti. Quando dico tutti vuol dire che ne ha 400 e c'è anche gli Alfa. Ah, già va bene. Vedi, così già va bene. Adesso mi tocca metterne, vabbè. Devo mettere io i sopra e sotto. Che c'ho sia il 48 a mettere o l'Intec il 490. Lo stanno vendendo, scusate se ho lasciato poco bianco, lo stanno vendendo a Roma a 69 euro nuovo, cioè da negozio con tante garanzie di 2 anni. Già è buono, già è buono. Sì, ci stavo pensando, Almeno la sera, oggi quando rientro fate compagnia. Avanti Antonello Barracuda. Niente, a me mi sarebbe interessato avere un vecchio apparato, però perfettamente funzionante, anche lui completo con le bande laterali. Mi sarebbe piaciuto averlo, un vecchio apparato, anche un 23 canali, anche un 40 canali con le bande laterali. Vecchio modello però perfettamente funzionante e senza graffi. Il bello è trovarlo. Se fai una cosa, scrivi una lettera a Babbo Natale, magari te lo porta. Babbo Natale, sono io Babbo Natale. Vero. Sì, e dunque niente. Va bene. Avanti Daniele. Andava. Ah, poi stamattina ho letto là il messaggio che ho lasciato su Facebook. No, negativo, se l'hai lasciato troppo tardi non l'ho letto. Ma sul mio profilo o sul profilo dell'associazione? No, quando stai parlando con me? Che poi c'è, sto chiudendo. Negativo. Non l'ho letto, scusate. Cava. No, poi c'è scritto, stavo chiudendo, era già da andare, che era le 11:15, devo entrare a mezzogiorno. Ma tu sei operatore del 118, quindi? Faccio 118, però siamo 118... Cioè, 118 sì, però non Mike, diciamo. Perché una si chiama Mike e l'altra si chiama? Noi siamo la base, capito? Le associazioni e le cooperative sono la base, diciamo, che ti fanno il primo soccorso. Poi eventualmente se c'è bisogno del medico, per quello si chiama Mike, perché è medicalizzata, capito? Perché Anto, cosa stai pensando? Cattivo, dimmelo tu se mi conosci bene cosa sto pensando. Non c'è problema, ho già capito quando gli hai fatto la domanda, d'accordo, ma aggiungo altro. Piacere. Non ti ho capito, tanto scusa, cosa hai detto? Non mi fa piacere. E guarda, da una domanda ti ho capito, d'accordissimo. Ma di Rogero, ma è la possibilità di essere trasferito qua in Sassari, non ce l'hai da niente? No, tu, perché io faccio a capo a quella cooperativa, capito? E c'è solo lì. Rogero. Giuseppe, riprendila, dai. Ti ripeto, Giuseppe, finalmente hai una stazione radio con il contro, come si suol dire, e puoi andare fiero. Cappa, no, mi hai detto, avvocato, mi hai detto una cosa. Dice, ma dove sei, sotto casa mia? Ho detto no. No, ho capito, però stai arrivando talmente forte che con questo segnale non ti avevo mai sentito così chiaro, limpido, pulito, senza che ti tiri dietro spazzatura di QRM, che stai arrivando una bomba, sembravi qua sotto, capito, in BM. Hai cambiato l'antenna? No, negativo, Antone, negativo. Ho fatto delle modifiche che dovevo fare, hai capito? Ah, va bene, solo stranamente io da parte mia, poi gli altri non so come siano, sento un rumore di sottofondo durante la tua modulazione. Adesso, ora. Sempre. Vai. No, deve essere, non so se dirlo, dai, devo vederlo domani, devo vedere una questione che c'è sotto, capito? E non sia quello. Allora, ancora tu vediamo moduli, sembra che sia un rumore di motori, una roba del genere, capito? Cosa che altri non hanno. Io lo sento così, per carità, forse sia anche il mio apparato. Chi siamo noi in questo momento che c'è ruota, c'è la modulazione del libero, invece tu, io sento questo rumore di sottofondo. Rumore di motore? No, motore non c'ho niente acceso qua, capito Antonio? Posso, io sento così dal mio apparato, forse che sia il mio apparato, per carità, non ti voglio allarmare, però io sento questo rumorino, però il segnale è buono, è anche una bella modulazione, confermo quello che ha detto Antonio. Non lo so, e forse perché sta riscaldando, chiama capito Antonio, Rote, sta riscaldando quella questione lì, e sarà anche per quello adesso che è freddo, quella cosa lì comprata in quel posto lì di quella persona lì, Pagava. Pagava. No, io obiettivamente non ti sento nessun rumore, ti sento limpido e chiaro e potente. Ti posso dare davvero, è che qua non c'ho uno smitter adesso, non c'ho l'altra apparata attaccata. Però stai arrivando sicuramente 9.20 radio Super 5. Caffa, va bene, già va bene. E Daniele lo stesso, no, o più basso è? Qua sì, 9.5. Caffa, 9.5 radio 5, va bene, già va bene, dai. No, Giaio, beh, a tu, che questo apparato, abbiamo fatto quella questione di aggiustarti quella roba là, quei cavi, tutto quanto, poi ho fatto un'altra modifica al microfono e sto sparando bene per quello. Tu sei più basso qua a me, però, confronto agli altri, E a te sì, perché sei... E lì a Orsi arrivo molto più basso di confronto agli altri. Santiago, sì, qua mi dico l'aereo di 3, però molto comprensibile. E io da te? Tu mi stai arrivando la radio 5, il segnale 7. Ma non satura? No, negativo, pulita. Oh, Antone. Senta nessun rumore di sottofondo, no? O nessun rimbombo? No, no, niente, no, pulita, come può essere, che stiamo parlando vicini di persona, capito? Ah, perfetto, va bene. Avanti gli altri. Ah, però mi dispiace Sparviero, che si è messo da parte. Vabbè, Antonio, devi anche capire che Claudio sta rientrando dal trabacco con tutto il giorno in giro, ci esce la mattina presto, quello ha preso un bel caldo e tutto quanto, e vuoi che non sia stanco? Ah, quello sì, per carità, ma lo sentivo molto giù, quasi che mi sia sbagliato, comunque, come non detto. Dai, ero anche per incoraggiarlo, tutto lì. Avanti, Anthony Hawkins. La verità è che è vecchio, sta diventando vecchio e ormai non regge più determinati ritmi, è così. La vecchiaia, non so, arrivati a una certa età, si inizia così. Arrivi tanto a casa, vabbè dai, non andiamo sul dettaglio a proposito di cilecche e queste cose qua, famiglia. Nessun commento, meglio così. Però uno sta in ciabatte lì così, era acceso il bicchiere di whisky lì e sta meditando. E cosa intendi con il whisky? Cosa, col bastone, la pantofola, è così, è tutto curvo, tutto, capito? È l'età. Allora, riprendi un attimo, che ne approfitto, vi saluto, vado a fare carica e poi vado tutta quanta a riposare. Roger, Daniele, ben sentito, ben ascoltato, 7351, siamo assolutamente sempre qua, e anche se ci sono dei giorni un attimino di cala come oggi, però ci serve assolutamente la tua presenza, ricordatelo. Ben sentito, ben ascoltato e ci sentiamo, spero, domani se coincide. Buon lavoro, buon trabacco per domani mattina. Riprendi Giuseppe per il saluto di Daniele. Ok, ti auguro un buon 144 quando lo fai, un buon trabacco per domani e una buona carica. Ci sentiamo presto, Daniele, e non t'abbattere e subimolare. Ehi, Daniele, buonanotte, sogni d'oro, ben sentito. Secondo me dovrebbe essere la prima volta, se non ricordo male, nel minimo sono diventato anche un incoglionito, speriamo dirò ancora è presto. Comunque, sentiamo le prossime. Come dice Antonio, l'unione fa la forza, mi raccomando, non abbandonarci. Vabbè, dai, se coincide la sentiamo domani, lavoro permettendo. Vabbè, ragazzi, buon proseguo con tutto, divertitevi, ce la ascoltiamo da quanta domani, dai. Guarda, oh, Antonè, però il problema è tuo, è che tu hai parlato come se fosse molto a luogo, sto rincoglionendo, no, tu sei rincoglionito, che è diverso, ma già da tempo si vede che ormai c'hai questi segni di altalenanti. No, il discorso non è l'età, sono, diciamo, gli assilli mentali che ognuno di noi ha, anche se non lo vuoi ci sono, comunque, servono andare avanti, per carità, ma come vedete questo Daniele è un nuovo CB. Ormai è attempato come CB, diciamo che è più anziano come CB che come persona, guarda. È un ottimo CB, ha solo un difetto, che ce l'ho a 20 metri da casa e ci bisogna che utilizziamo l'attenuatore, ma è una persona squisita, una persona che più volte ho chiesto agli amici in ruota che fine avesse fatto, perché mi dispiaceva il fatto che non stesse più modulando. Tra l'altro è una di quelle persone che mi ha iniziato, posso dirlo tranquillamente, all'utilizzo di un certo tipo di apparato che tu hai visto. Ed è grazie a lui se io l'ho comprato, perché devo dire la verità, mi ha messo questa pulce nell'orecchio e finché non l'ho avuto non sono stato tranquillo, per quanto lui poi ce l'ha più completo ed è marca Sparviero quello che ha visto. Ah ecco, comunque diciamo che sembra così che piano piano molta gente si sta avvicinando, sembra così un po' oggi un po' domani, mi dà questa impressione, ecco, speriamo che prenda piede la situazione. Io ho fatto un QSO stasera, c'era anche De Uncino, dove sono rientrati due CD di Alghero, due vecchi CD di Alghero, uno fra l'altro stava rimpiazzando l'antenna mentre stavamo volando con noi. Questo mi fa un enorme piacere assolutamente, perché finalmente la maggior parte delle persone ha capito che questo computer ci sta un attimino rendendo schiavi. È vero che è utile perché ti mette nella condizione di poter viaggiare senza muoverti da casa, però ha i suoi lati sicuramente anche negativi, e lo si vede nei ragazzini di oggi, davvero persone che non sanno spiccare due parole, spiccare qui un termine tradotto dal sardo, che non sanno comunque parlare, sono persone introverse e sanno solamente scrivere messaggi, stare nelle chat, e poi quando si incontrano in verticale sono degli zombie. Si è entrato Alghero Franco Odice. Fare Roger, esattamente lui, insieme a un altro CP, una persona davvero squisita. E sono quelle persone che ti stavano preparando e ci siamo sentiti, ci siamo anche visti. Sono amici miei, ne ho detto io di passare qua, fa piacere, domani ho telefono a Franco. Va bene, mi sto ascoltando, comunque mi riprendete. Eia. Scusa Anto, diciamo come io purtroppo non ho potuto seguire la vostra modulazione stasera. Di cosa avete discusso? È un loro pensiero, sicuramente sono espressi. Dunque raccontami un po' com'è andata questo QSO. Un attimino. Sì, un attimino. Sì, scusato. No, delle persone squisite, il QSO purtroppo è avvenuto in un momento dove non eravamo in ruota, dove sicuramente non ci stavamo capendo per motivi di eccessiva distanza. Eravamo io, Falchetto, Giuseppe Leoncino e Gianni di Chiaramonti, poi sono entrati questi due amici di Alghero. Ti devo dire la verità, io inizialmente pensavo fosse Gigi Vulcano che ne stesse facendo una delle sue, perché la voce era lontana, era un po' strana, invece poi mi sono reso conto che erano questi due vecchi CB algherisi, alla grande, mi ha fatto piacere assolutamente che siano rientrati dopo svariati anni, ma sapevo che c'era l'ala, non lo zampino, l'ala dello Sparviero, dai. È perfetto, dai. Allora, tra virgolette, mangiando, chiudete le virgolette, piano piano la situazione sta prendendo piede, molto lentamente, ma sempre diciamo con molta calma, meglio così. Non tutto di fretta, sono le cose escono male, perfetto, sono contento. Io ne ho sentiti, purtroppo speriamo di sentirli diciamo più presto. Ho sentito pochi giorni fa questo in ascolto a Romeo Primo, giusto se non sbaglio? Caparugger è un signor, non posso dire CB perché come lui ha ben detto è un fratello grande, diciamo, dai, una persona che va su altre frequenze, una persona abituata a interloquire in altro modo, e comunque abbiamo fatto anche con lui un ultimo QSO, è stata davvero una bella giornata quella di Amantiri. E spero che sia in ascolto, comunque che al più presto rientri assolutamente in frequenza, perché ha detto che era 40 anni che non frequentava la 27. Allora dico la mia, scusate Antonè, appello mancato, detto Falcone Antonio, tu puoi fare Falcone. Scusate, ma c'è di nuovo chi è entrato? Noia. Abbassa. Adesso va bene, vai tranquillo, ogni volta che sei un bulldog, andiamo piano, sei sempre a manetta, dimmi, vai avanti. Adesso meglio qua. Ehi, adesso va bene. Ho detto che ci manca, prometto Falcone all'appello. Prometto Falcone o Antonio Grande, a posto suo. Vedrai che nel vocabolario della mente gliela inserisco questa parola, break, a Luca, break, lo troveranno tutto il giorno e dice break, così, per due ore. Quando ci conosciamo glielo faccio dire per un'ora, break. Alla fine entrerà e dirà solamente break. Finirà e non ce la fai, lascia perdere, ormai sono abituato così. Quando lo sa, perciò non se non vabbè, dipende anche in che ruota sono lo faccio, ma. Ormai mi conoscete, è utile che tu stai lì, black. Non lo faccio, punto e basta. Poi, se mi vuoi parlare sopra non c'è problema, parlami sopra. Cappa, black. Vedi che lo sei, a parte che io mi farei mettere mai di parlarti sopra, ci mancherebbe, io ti rispetto e ti voglio bene. Poi cosa significa? Lo sa Claudio e quindi lo sa il mondo. Non credo che Claudio approvi questa cosa, comunque a prescindere. Fai il break. Scusa Anto. Io approvo, lasciate stare a Luca, se no mi spezzo lo so il capocollo. Buonasera, scusa Antonio. Visto? Vedi? Io non mi difende Claudio, mi conosce ormai. Antonio. Puoi parlare, dimmi. Ascolta, ma è possibile questa settimana, se ci organizziamo, cercare questo Falcone e metterlo in condizione di rimodulare di nuovo? Scusa, se questo ti fa piacere, però io gradirei prima farti erudirti in merito a chi era la persona, perché se vogliamo nobilitare la frequenza non mi sembra il caso di svegliare vecchie inglorie della 27. Purtroppo, tra l'altro poi non è neanche colpa sua, mi sento nella condizione di dover spezzare una lancia nei confronti di questa persona che portava un handicap non so se avesse più handicap lui o le persone che l'hanno sempre fatto o che hanno sempre bisticciato con lui o che l'hanno sempre messo alla berlina, e lanci la prima pietra chi non l'ha mai fatto, me compreso. Però col senno di una persona che ha ormai 40 anni non mi sento nella condizione, a meno che non siano cambiate, come credo, le condizioni della frequenza, di dover farlo modulare, perché so cosa, cioè i primi giorni sarebbe tranquillo, diciamo dopo poche settimane rinizierebbe punte a capo, quindi non so quanto sarebbe conveniente. Se vuoi comunque possiamo andare a conoscerle, poi se ti vuoi prendere la responsabilità tu, ben venga. Assolutamente no, perché ci ho mudato anch'io tanto tempo fa e so come la persona, sì che diciamo col tempo le cose cambiano, ma per evitare un po' la situazione, come non detto, vai, avanti il prossimo moderatore. Mi devo uccidere. Calma, venga, non ho capito cosa stavi parlando, quale persona, che forse Polacci, che la conosco anch'io. Falcone, e chi non lo conosce? Antonello stava dicendo, siccome è sicuramente fa parte della storia dei CB sassaresi, perché anche quelli che hanno modulato per un giorno, chissà perché, sapendo che io modulavo, la prima cosa che mi dicevano, ma c'è ancora quella persona? A me non sembra il caso, poi ognuno può dire la sua. Avanti, Leoncino. Lascia perdere che diciamo che Falcone è una persona che non le può dare nessuna cosa, capito? È la gente che prendeva per i fondelli e tutto quanto, perché se tu lo conosci veramente, lui è una persona squisita, perché non fa male a nessuno, ha capito? Io l'ho conosciuto e ti posso dire che di persona, che è una persona che tranquilla, che potrebbe essere come mio figlio, ho capito che c'ha una parte di quella cosa là, di un bambino handicappato, ho capito? Io ho capito perfettamente, io non imputo, infatti se hai sentito la prima parte del passaggio, non imputo colpa a lui, ma quello che stavo dicendo appunto che purtroppo a volte in frequenza ci sono delle persone che ragionano, perché se lui ha tutto il diritto di comportarsi in un certo modo perché ha, poverino, questo handicap fisico, che poi fisico non è mai mentale, chi si mette nella condizione di prenderlo in giro è davvero la persona che il problema ce l'ha, e ho detto lanci la prima pietra a chi non l'ha mai preso in giro, e questa è una vergogna, però col senno dei 40 anni io mi rendo conto degli errori che ho fatto e gli errori che facevano allora persone che sicuramente erano più grandi di me, di questo spero ne converrai. Abba, io ho tutte quante le ragioni, io ho tutte le ragioni, perché diciamo che lui, da quando io l'ho conosciuto, da quando era sua, prima del passaggio di quello, che modulava a casa della madre, metteva il baracchino tutto quanto, l'antenna, ancora ce l'ha, però una volta che l'ha preso la sorella in custodia, la sorella non ne vuole più sapere qua Sampdoria del fatto dell'apparato, perché incomincia nuovamente la gente, se dovesse entrare lui in frequenza, rinvierebbe nuovamente il casino, hai capito? Nuovamente prendersi il culo qua e fare il gioco di quello che li facevano e tutto quanto. Io, essendo, non mi sono mai permesso e non mi permetterò mai tuttora di fare queste storie qua, perché chi fa queste cose è peggio di lui, capito? Quello che intendevo dire assolutamente. Poi il vero dramma era stato anche per una genitrice che si ritrovava questo figlio che sbraitava a luna di notte contro chi gli metteva portanti, cose del genere, non era sicuramente carino, e credo che la sorella con questa esperienza non lo farebbe mai rimodulare assolutamente. Anche perché poi, ti ripeto, dal punto di vista legale ti devi prendere anche una responsabilità. Sì, ti posso dire un'altra cosa, tramite un'altra persona, dalla famiglia sua, ci sono state denunce, capito? Sono state denunce tramite queste CP che ci permettevano, ha preso per il culo, ci sono fatti brutti e hanno fatto brutti quasi d'ora questi qua, hai capito? So che ti posso dare conferma, perché io ho conosciuto la madre, ho conosciuto la sorella e mi ha detto guardi, lei è l'unica persona che mio fratello qua, che modula quando c'è il baracchino e modula regolare, capito? Ma voi state parlando, ma secondo voi, no? È un elemento che poteva tenere un CB quello, un baracchino, però quando mettassi la mano lo prendeva in giro, era uguale, no? Quello è un elemento che non va a fare quella frequenza, assolutamente, perché con la testa non c'è tuttora, perciò quello non è un elemento a stare qua dentro, perché a parte ascoltano anche i bambini, perciò guardate un po' voi, e fanno bene, ci hanno fatto bene e quindi lo prendevano in giro. Non lo accetto, mi dispiace. Non condivido assolutamente quello che hai detto, perché chi lo prendeva in giro dimostrava di essere più malato di lui, assolutamente, perché una persona portatrice di handicap al limite glielo fai togliere il baracchino, ma non ti metti nella condizione di prenderlo in giro. assolutamente. Questo te lo dico arrivato a 40 anni, poi quando ne avevo 14, ma ti ripeto, ero giustificato perché avevo 14 anni, però è sempre una persona disagiata, portatrice di handicap, ed è, non è il caso, non è minimamente il caso di mettersi nella condizione di prenderne in giro, soprattutto perché nel QTH familiare vivevano già un dramma che veniva amplificato dall'atteggiamento, da quello che poi succedeva a seguito del fatto che gli altri lo prendessero in giro. Quindi no Luca, non sono d'accordo. Vabbè, a prendere in giro Dio, lo facciamo per far sì che questa persona sparisse dalla frequenza, questo comportamento, tutto. Ma gli dicevano, vabbè, qualcuno l'ha preso in giro, ma lo facevano per farlo sparire, o tu. Qua gli hanno staccato anche l'antenna, una persona è salita sul tetto, ha lanciato una corda e una macchina l'ha buttata giù, Ma no, io ti sto dicendo, col senno di poi. Poi ho detto lanci la prima pietra a chi non l'ha mai fatto, perché io in primis, io per primo l'ho fatto, però avevo 14 anni, ma anche quando ne avevo 20, però poi ragionandoci su, pensando il dramma che viveva questa persona e la famiglia, poi tu sai benissimo com'è andata, no? Cioè questo qua aveva iniziato a modulare perché aveva fatto 2 milioni di bolletta, perché gli avevano messo il telefono, lo lasciavano solo a casa e lui telefonava a mezza Sassari. Allora avevano pensato che comprandogli un baracchino si risparmiava, pagavano di meno perché pagavano la concessione, aveva un signore, il dramma era che aveva un impianto fatto benissimo, che gli aveva fatto fra l'altro Antonello Pomponio, che lui stesso aveva detto avevo superato me stesso, quindi trasmetteva benissimo ed era il motivo per cui realmente rompeva le scatole, perché se avesse avuto un segnale basso lo si sarebbe sovramodulato e punto. Allora, Roberto Falcone, dove era lui, cioè non lo abitava prima, spaccava il culo alle colombe a mezzo Sassari, era una cosa micidiale, era una cosa impressionante, veramente, era fortissimo. Sicuramente non avevano problemi a casa a comprargli un buon baracchino, a fargli fare un impianto da un tecnico e allo stesso tempo di mettergli un'antenna con il contro, come si suol dire. Allora invece io mi ricordo che dovevo contare gli spiccioli per comprarmi gli spezzoni dell'RG58 perché non avevo soldi, quindi figurati, mi faceva che la melacotogna. Beh, comunque diciamo che che capivo abbastanza bene, tu non era come stai dicendo tu, tu sì, ma no a quelli risvegli come stai pensando tu. Io l'ho conosciuto a Poletto, poi c'era una persona molto molto furba, molto. Ma sai, con la furbizia è il mezzo che utilizzano le persone poco intelligenti e poco dotate, per questo devono diventare furbi. Però comunque ripeto, tra l'altro io vorrei che il canale 10 venisse preso ad esempio per quanto riguarda la 27, quindi libero di rientrare questa persona, libero di poter modulare, però possibilmente su un altro canale, perché io vorrei che qua si facessero dei QSO di un certo tipo, soprattutto che un qualcosa che come è successo a Valtieri, assolutamente. Abbiamo parlato di tutto, è stato molto istruttivo il QRO che abbiamo fatto e vorrei che si continuasse assolutamente così, anche perché le persone che rientrano ritrovandosi di fronte a una situazione come quella di 20 anni fa, no? Credo che lo mettano definitivamente da parte il baracchino, quindi assolutamente. Sì, ma sono d'accordo con te, tu, però da una parte era meglio forse che non glielo mettesse mai morto, questo apparecchio, perché non è una persona, non è adatta a queste cose qua. Poi se lui ha speso, ha fatto chiamate mezzo Sassari e la madre ha pagato 2 milioni di bollette, sono affari di loro, ma lei, cioè tu lo sai benissimo qua che c'è gente che ha figli in casa e sta ascoltando a lui tutte le cose che dice, ma non è una cosa bella. Assolutamente, e non voglio monopolizzare e fare il ping pong, tant'è vero che io chiedo a chiunque si metta in frequenza sul canale 10 di moderare il linguaggio, per una questione di rispetto anche del QRA familiare della persona che sta modulando, perché, ripeto, molto spesso per una questione di fastidio molti di noi non tengono le cuffie e sentire determinate frasi scurrili non è educativo e rispettoso nei confronti dei figli degli altri. Questo è infatti il chiedo. Poi, vi ripeto, negli altri canali si può fare quello che si vuole, però considerando che l'associazione che stiamo tirando su sta prendendo come punto di riferimento il canale 10, è bene che diventi un gioiellino, né più né meno come il 45 per i camionisti, è come è stato il 5 per i camionisti, è come sono stati altri canali, è come assolutamente il 21 per altre persone che desiderano fare un QRO diverso da quello che facciamo noi, che però li appaga lo stesso, nel senso tranquilli, dove parlano di altre cose. A me va bene tutto, è importante essere educati e rispettosi nei confronti del prossimo. Sì, sono d'accordo con te, ci mancherebbe. Purtroppo ogni tanto scappa qualche parolaccia, tu lo sai, no? Scappa, anche per via della portante, vai, te sta facendo un discorso serio, ma un discorso che a noi piace ascoltare, soprattutto, vai, chissà qua stai parlando tu, c'è davvero che qualcuno ti ha dato la portante. Ma se c'è una cosa importante per noi, ma è importante non mai che scappa la parolaccia, più di una. Guarda che ci siamo una scatola e vai, non capisci più niente, inizi a sparare. Ma vabbè, purtroppo è così. L'unica è, guarda, spegne, o non sono queste importanti, te ne spegni, perché non puoi fare diversamente. Gentilmente vorrei che non ci fosse nessun tipo di riferimento a nessun tipo di portante. Assolutamente. Evidentemente cambierei anche discorso, perdonami Luca. Avanti Antonello, come che si chiamavi? Ah, poi un'altra cosa vorrei dire, non è che il canale 10 deve diventare un canale di noi, cioè siamo noi, siamo sempre noi, l'unica cosa ci diamo un attimino delle regole che dobbiamo rispettare, un attimino meno scurridi, dopodiché ci divertiamo, vanno bene le pernacchie, va bene tutto, però sempre nel rispetto e nei limiti di una certa decenza. Avanti Barracuda. No, niente, io vi stavo ascoltando, la verità, e stavo nel frattempo baciando a mia moglie, ecco, continuate. Comunque non c'è, comunque salutiamo anche la signora lì presente, per QTH di Antonello. Tanto, purtroppo le cose, io ci sono quasi 20 anni in frequenza, quasi. Se non ci sono, lasciamo lì. Perché mi ho sentito e visto anche, dai, diciamo visto, no? Comunque ho sentito tante, anche io ho fatto la mia parte, tante volte mi hanno accusata a me, eppure vedi, cosa mi interessa? Non mi interessa niente, ci accusavano a me che ho fatto la portante, se la metto la portante la metto per far danno, non per metterla a te, e poi Claudio riesce a parlare, se faccio l'esito, Claudio riesce a parlare con tutti, non vale la pena, cioè solo tu, blocco solo a te, se la metti, la metti per tutti. Faccio dare matana a tutti. Vabbè, comunque, non mi interessa. Se volete togliere un discorso, io sono qua, dai. Continuo a mangiarmi la mia bella insalatona e mi bevo la mia birretta fresca, no? Prego. Quello che mi sto chiedendo è, ma visto che stai sempre mangiando insalata, me lo spieghi perché sei pantigopo? No. Ma vabbè, io la salata la mangio, ci vuole un po' di pasta anche. Salata! Battoncini. Ma ti combo solo perché già ho messo da 3 anni, quasi 3 anni di fumare, no? In più, quest'anno, perché ho dato qualche prete in più, vedi un po' tuo. La fa bene, chi beve birra che non fa 100 anni. Avanti Giuseppe, scusami se abbiamo monopolizzato la cosa, avanti. Vedi, quando fai ping pong la gente ti lascia. Avanti, chi era rimasto? Antonello Barracuda. Dimmi Antonio, credo di baciare, dimmi tutto. No, vabbè, non c'è problema, ho tirato così. Tanto per togliere qualche discorso, c'è bello pure alla fine, con diciamo, un piccolo input e poi iniziare a modulare. No, va bene lo stesso. E niente in particolare, anche io l'ho conosciuto la verità, Falcone. Tra virgolette all'epoca, durante la modulazione, è vero. Ne ha fatto un po' di bordello, ma è già stato abbastanza divertente, però non lo nego, non gli ho mai rotto le scatole io. Però è stato abbastanza divertente, dunque sono pienamente d'accordo se bisogna tirare sull'associazione fatta, scusando la parola, con le palle o con i giudici di famiglia, siamo costretti giustamente a evitare, diciamo, questi piccoli, tra virgolette, elementi. Ecco, sì. E niente, alla fine va bene uguale lo stesso, non c'è problema. E ti ripeto, io mi riempio sempre la parola, di, cioè la bocca di questa parola, che è nobilitare. Cioè, obiettivamente, se io credo che Marconi, se avesse sentito l'uso che ne facevano 20 anni fa del baracchino, avrebbe, cioè sarebbe girato nella tomba, si starà girando nella tomba, perché ti ripeto, è un qualcosa che è servita sicuramente per ben altro, e utilizzarlo in questo modo per mettere forza, vabbè, non voglio entrare di nuovo in questo discorso assolutamente, però dico, per avere un frasario di un certo tipo, non è il caso. Tu continua, ma certo, moglie, diciamo in diretta, quando poi ci stufa non ti bacia più, eh. Ah, no, tranquillo, è stato un attimo, siamo guardati negli occhi e vi ho tutto distinto, darci due baciotti, ma niente di più, tranquillo, non ti preoccupare, era tutto un segno d'affetto, dai. No, vabbè, a me non interessa, niente di più. Dico, sta attento, non approfittarne, poi ci stufa non ti bacia più, Vabbè. Claudio, che fine ha fatto Andrew? È un attimino in quel rit, se non sbaglio. Però volevo dire, Antonello, posso chiedere una cosa? Prego Antonio, avanti. Sicuro che... Non mi freghino! E... guarda, quando meno te lo aspetti, ricordati che sono sempre fanano. E comunque c'è, diciamo, anche una trambulazione, c'è anche, se non ho capito male, Leoncino, giusto, eh? Leoncino! Come sta mangiando un Leoncino. Lui si è andato. Ebbene, Antonio, devo dire che quella cosa va quella dell'antenna. Scusami, se hai parlato con me mi sono allontanato un attimino dall'apparato. E ti ho chiesto, per fatto dell'antenna radiata da cosa lì, cosa ne pensi? Del fatto dei radiali, dell'antenna, niente, guarda, li ho già regalati a un'altra persona quei radiali lì, perché evidentemente con la tua non va bene. Quindi se non li usi perché realmente non ti sta dando, cioè, a meno che non fai questo, quell'antenna va riaccordata. Perché nel momento in cui gli metti quel piano di massa, o meglio, quel piano di radiazione con quei radiali lì, l'antenna cambia completamente, quindi è normale che ti stia dando stazionario, quindi la dovresti regolare di nuovo dall'ortello superiore. Nel momento in cui non hai intenzione di farlo, l'antenna ti darà sempre stazionaria perché sarà. Capito, dunque, e chi è l'usufruttario di questi radiali? A proposito, non so se sia in ascolto, era Occhi di Gatto, Fabrizio Occhi di Gatto, che so che doveva fare, peraltro, un esperimento stasera da Tintino, voleva piazzare un attimino un dipolo, vedete, un dipolo di mezz'onda, anche se, come dice lui, a volte viene chiamato dipolo d'onda perché è equilibrato, comunque un dipolo che aveva i bracci da 5 metri e qualcosa ciascuno, e lui ha lo stesso un arrivo, su cui quella cosa, su quell'espediente va bene. Adesso, se non so se, io ti dico la verità, per come stai uscendo tu, cioè non hai così tanto margine di miglioramento, nel senso che esci talmente bene che è relativo che tu metta un piano di massa diverso, capito? O un piano di radiazione diverso, perché vai benissimo. Aspetta, io non ci avevo neanche pensato, me l'ha consigliato il signor Pomponio, che oggi ancora non si è attaccato per niente. Ha detto, prova, vedi un po' cosa succede, ma... ha detto, vabbè, non c'è problema, altri suoi radiali, ma ho visto che ho fatto diversi, diciamo, passaggi nell'antenna, miglioramenti zero, anzi, l'antenna la fa, la zittisce, in poche parole non riceve nessun segnale, al massimo sentivo solamente il falchetto quando modulava, poi smettevano di modulare, silenzio assoluto, poi li ho ritorti e l'antenna ha ripreso la funzione, vuol dire che è costruita, diciamo, è stata, diciamo, messa in piedi, senza il radiale la lascio così, non c'è problema, quando vuoi ti riprendi. Esattamente, no, se non li devi usare, nel senso che se non li devi usare, se non hai intenzione di fare questa prova, di piazzarli e di accorciare un attimino lo stelo, secondo me è inutile, cioè obiettivamente, Poi non so come mai piazzandoli ti annullava completamente, forse perché è un'antenna cortocircuitata e quindi nel momento in cui la sbilanci ti crei questo problema qua. Io vorrei l'intervento dello sparviero. Ma Antonio, tu sei qua dietro, vabbè, qualche anno fa, no? Non è che da molto. Ma ce l'hai lavato valore antenna, o no? Negativo, io avevo una Sirio 2008, che era quella che avevi visto uscendo da casa di Daniele, dai. Ah, cappa. Adesso che antenna hai? A dirti la verità, come radiazione e come ricezione mi sta permettendo di fare degli ottimi DXL a Ringo, a cui ho fatto una modifica per abbassare le radiazioni stesse come stavamo parlando. Senti come friggono le... La sentite? Si è attaccata una specie di aeroibo alla macchinetta per fulminare le zanzare. Stavo dicendo, quindi sto ottenendo lo stesso che ottenevo con una 5 ottavi, lo sto ottenendo con una mezz'onda. E sta andando davvero da Dio, perché stazionarie 1 e 1, come ha visto anche Antonello, e sta andando alla grande, davvero, sono soddisfatto. È per il costo, è per il costo e per come sta funzionando. Sì, sì, no, vabbè, mi ricordavo la Mantova, vedi un po'. Mi ricordavo la Mantova. Io adesso vediamo un po' a settembre, boh. Più fresco, devo cambiare il palo perché diciamo il palo che ho io, con la base è buona perché è zingata, però il pezzo che va dal piantone, diciamo, no? Alla Mantova è tutto arrugginito. Infatti sto pensando che sicuramente non esce, ma vediamo un po', perché se non esce più la lascio così, buonanotte, poi quando si rompe vedremo di cambiare l'antenna, cioè non ci posso fare niente, è tutto arrugginito quel palo. Speriamo, beneficiato la bomboletta. E più devo controllare anche le staffe, perché non vedo molto molto male quelle staffe lì. Sono state fatte da... diciamo, fatte così, ecco, fatte in casa, diciamo. Problema, se vuoi, quando vuoi una mano fai un fischio e se vedi come ho fatto io le staffe, io ho preso delle bindelle d'acciaio, che sono delle piattine d'acciaio di un certo spessore, le ho modellate, le ho fissate al muro con tassello chimico e su quelle poi ho attaccato il palo dall'antenna. Chiaramente sono a una distanza di un metro in modo tale che la regano bene, non c'è bisogno neanche dei tiranti. Tu realmente avresti meno bisogno di un piano di radiazione come quello che c'ha la Mantova e più come quello che ha la Ringo. La Mantova, come lo sappiamo bene, è una signora antenna, sia la ricezione che la trasmissione. Ma tu, non so come gli hai messo questa staffa, fammi capire. Immaginati, hai capito, le staffe sono delle bindelle, cioè delle piattine di ferro dolce, chiaramente si possono piegare non facilmente, però facendogli dei tagli con la mola, poi le fai un esagono. Allora, per spiegarti che cos'è, sai che cos'è un esagono, sì? Scusa? Che cos'è un esagono? Ma esagono sono. Ma un esagono è una figura geometrica che ha un composta, tu immaginati di prendere un quadrato e dopodiché unirgli lateralmente due triangoli rettangoli, ottieni un esagono. Questo qua fate l'esagono così, in modo tale che si appoggino al muro e allo stesso tempo però vengano distanziate dal muro stesso di un tot che decidi. Tu ne fai due così, dopodiché le fissi al muro con tassello chimico, che è la cosa migliore per fissare l'antenna, perché una volta che tu butti dentro, il tassello chimico funziona così, prendi una barra filettata, fai i buchi, più larghi le fai è migliore, anche se sei nel tubo, ci butti dentro un po' d'acqua perché come si dice, una volta che butti dentro il tassello chimico, più c'è acqua, più c'è umidità, più l'assorbe, più diventa duro. Gli infili, dopo aver messo il tassello chimico dentro questi buchi, dei pezzi di barra filettata, e quelli non usciranno più, piuttosto ne esce il mattone. Una volta che hai piazzato quelli, quindi hai creato dei tirafondi, gli appoggi la bindella e lì avviti con un bullone e sono reggono da Dio. Diciamo che il muro non me lo permette, tanto. Vabbè, quando lo vedi poi magari hai ragione, no? piazze Cale sono molto vecchie. Guarda, diciamo che l'unico punto dove potevo mettere la macchina è quello, però non è buono, tu non è buono, non è buono. Lì per fare una cosa fatta bene devi entrare il più possibile dentro, perché sono, come si chiamano, forati, cioè sono quei forati grandi, comunque sia, quelli larghi larghi, però nel forato non è che rega più di tanto, se la blocchetta la meglio, oppure cantone. Adesso guardo un po' là, guardo un po' di fare qualcosa, niente, faccio un buco nel tetto per far sì che faccio passare il palo, anche lì mi fa, diciamo, mi tiene un po', ecco, mi tiene un po' l'antenna, cioè più che l'antenna il palo. Se ne cade la trappa mi diranno, è molto pesante quel palo. E poi non vorrei mai che ne cadesse un'antenna mai, perché se cade sono fregato. Ma capo, infatti è più pesante il palo dell'antenna, poi se vai a vedere. Ma ti ripeto, adesso sicuramente i muri, vista le case, saranno in tuffo, forse sono in tuffo, e quindi il tassello chimico va benissimo. È che non l'ho vista bene la tua antenna, il giorno che vengo a buttartela giù già me ne rendo conto, gli faccio una foto prima. Ho piazzato le staffe, io la verità volevo chiamare un amico, mi ha detto sì, vengo, poi alla fine mi sono prestato, l'ho preso, fatto i buchi, niente, ho preso a livello, dei buchi tutto quanto, erano perfetti a tu. Guarda, però se avessi piazzato un muratore bravo. Cosa è successo? Siccome abbiamo messo in mezzo un bastone, in modo tale che le tappe rimanessero distanti, ecco, perché se tu le metti in alto poi scendono, no? Quello ho fatto, messo questa tappa in modo tale che rimanesse alta la tappa. Scendendo dal tetto, questo non messo una cosa, l'ho buttata, infatti sotto un nutri, la tappa è sorto. L'ho buttata e si è andata un po' dentro, ma più fuori la tappa. Vabbè, comunque già cerco di fare un lavoro come si tocca. Due tappe belle, fatte bene, altrimenti pago un fabbro, non mi interessa niente. Anche se spendo quelle 20-30 euro non mi interessa niente, però metto delle tappe come Dio comanda. Facci via, non c'è problema, allora vai da. Ti dico dove andare a prendere il ferro, da cosa? Da. Non da carbone. Come si chiama? Quello che c'è a fianco al cimitero. Vabbè, no, non è quello. Per prima cosa dovevo sostituire il palo e vedere il tutto, ecco, perché se la cade la lantera, ripeto, fa un po' di danno, cioè le tegole sono quel che sono molto vecchie, credo ne sa qualcosa, chiedilo. Detto, qui tienimi il palo, sì, ma tranquillo, vai, prende, mi molla il palo, mi spacca due tegole, madonna, disperato, non sapevo più cosa fare, mi credi? Adesso meno male, se me l'ha fatta apposta. Quando ho legato praticamente il tirante più lungo, e sono andato dal mio tetto all'altro tetto e mi sono agganciato, se tu noti dove abito io, c'è un palo tipo il mio, grosso, alto. Mi sono collegato, sono agganciato alle staffe che sono simili alle mie, però sono molto molto più, diciamo, più sottili, ecco. E lì per lì, meno male, invece me l'ha fatta apposta. C'erano le tegole nuove. E io ho preso da lì, solo il giorno guarda l'ho fregato. Ma se ne è accorto, mi diceva col palo alla mano, mi ha spaccato due tegole. Ma guarda, ti ripeto, le staffe ti aiuto a farle io, non c'è problema. Dopodiché è importante non risparmiare sul tassello chimico, costa 12 euro, forse lo trovi anche a 8 a volte. Però una volta che le piazzi col tassello chimico non vanno da nessuna parte. Ti ripeto, io quando sono andato ad abbattere il palo della 2008 la Sirio, siccome l'avevo messo in un modo particolare, non riuscivo a tirarne via le staffe, ho forzato, ne stavo uscendo il mattone con tutto il blocco attaccato al tonnino di ferro, cioè al tonnino della barra filettata. Sai che abbiamo lasciato in parcheggio il barracuda, perdona, riprendi. Sei affondato. Oh, meno male. Meno male, raggio di sole, ben sentita, ben ascoltata, 7351, super cordializzata dalla stazione Grotte, avanti. Buonasera anche voi alla ruota, ben sentiti. Siamo una ruota con pochi raggi, perché siamo rimasti in tre a ballare l'Alligalli e tutta una serie di persone, di ascoltoni, di piacevoli ascoltoni, spero almeno abbiano il piacere di ascoltarci. com'è andata la giornata, Radio di Sole? Diciamo abbastanza bene, tra virgolette. Le virgolette? Ha ancora il cane dei vicini che le sta mangiando le piante? Tanto mi permetti di salutarla, posso? No, mi scusa, mi si riduca, va. Tu fai sempre la T-Lover, è una calmata. Buonasera, signora. Buonasera anche a lei. Ah, buonasera, ben sentita e cordialità. E questa parte è sempre Luca, che è la super cordializza. Allora, anche Antonio, riprendi. Luca, per nome, io parlo bene e razzono male. Però nel momento in cui entra una ragazza così solare, così bella come Radio di Sole, assolutamente non posso far altro che mettere ad ombrare il resto del mondo. Stavo dicendo, il cane dei vicini. Il cane dei vicini è fortunato che non è venuto, se no l'avrei sparato oggi. Oh, perché? Non conviene. Basta mettere il guardiano, quello che c'è a fianco a lei. A proposito, dove è andato? Sì. È Cuda. È andato a prendermi un gelato, voleva il gelato, è andato a prendermi un gelato. Gelato al cioccolato? Sì, gelato al cioccolato. Lo vuole anche lei? No, me lo sta appena chiedendo la mia 25. Gelato al cioccolato, dolce o un po' salato? Solito mangio molto dolce, quindi deve essere dolce. Allora vuol dire una cosa tu? Secondo te, perché mi piace la birra inclusa? Dimmi, rispondimi. Con la verità, perché sei un caffonazzo e non ne capisci niente di birra. Il giorno che vieni con me tu la birra chiusa non la bevi più, perché ti porto in un posto che si chiama Red Lion, dove hanno birre di un certo tipo, e tu vedi che ti fai la bocca a birre come si deve, e la birra chiusa la usi per lavarti i piedi. No, allora, io la bevo a lei e mi fa mal di testa, bevo a lei che mi fa mal di testa. Sto parlando con la della Ruspini, che è buona, ma che sembra quella di birra, quelle lattine, sto dicendo, quelle le lattine piccole, sono le lattine quelle più grandi, e non mi fa mal di testa, bevo birre strane, mi fa mal di testa, perché non sono abituato, l'unica birra che io posso bere, senza esagerare ovviamente, perché se esagero mi fa mal di testa, è richiusa, punto e basta, non mi fa altre birre perché non te le bevo. Non è doppio un altro, nulla. Sono birra inclusa. Se tu mi vuoi una birra, mi offri un'inclusa. Ti volevo chiedere, ma la lingua come ce l'hai? Hai per caso stomatiti? Capito, scusa? Nella lingua hai per caso stomatiti, delle macchioline a seguito del fatto che beva birra di un certo tipo? Negativo, no, proprio... Non so, mi fa male, altro, fa mal di testa. Anche un bicchiere... Io una volta mi sono preso una sgonza birra Heineken, seduto, non c'avevo niente, te lo dico, seduto, per la carica ho vinto un sacco di gettoni nella macchinetta. Allora, siccome parlava nel bar, non dava soldi, ho iniziato a levare birra, ero seduto tranquillo, sempre bel bello, parlando, intanto uscivo a fumare, poi alla sera mi sono più alzato, stava bevendo, mi alzo, esco fuori per fumare una sigaretta, mi sale questa cosa, madonna, sembra che stava cadendo il palazzo addosso. Che è possibile, io ti ho chiesto se nella lingua avevi delle stomatiti, che sono delle macchioline che vengono dovute al fatto, di solito, se hai lo stomaco in disordine, perché è possibile che tu abbia un'intolleranza o ai lieviti di birra oppure un'intolleranza a quello che è il malto, tant'è vero che più sale di gradazione la birra, a quanto ho capito, e meno la sopporti. Allora, no, ti spiego, io non sono abituato a bere, ecco perché ci sono mesi e mesi che non bevo niente, birra zero, aracciata, Coca-Cola, superalcolici, niente. Poi magari mi viene la voglia, dice beh, io faccio una birretta, ma faccio due, questa parte è un po' allegro, ecco, stai tranquillo come stesso, non mi devo ubriacare, e mi fa mal di testa. Adesso io in questi giorni sto davvero insomma più del dovuto, ecco, qualche birra anche me la faccio, però stavolta non mi sta facendo mal di testa. Se io bevo una birra tipo Der, mi fa mal di testa. Ovviamente c'è qualche componente che a te non va bene, ma ti ripeto, sono tutte e due delle droghe, se non sbaglio. Sono delle lager, sono delle birre lager. non so però la composizione, dopo te lo cerco e ti dico cosa potrebbe farti male, perché una differisce dall'altra, perché la Dreher è l'inclusa, quella sia una birra di frumento, al contrario delle altre che sono birre che ho ottenute dal malto. Tu devi vedere che cos'è la composizione, ma è tutte le altre tranne che la Dreher, cioè tranne che l'inclusa. No, qui c'era la Heineken anche là fuori. A parte il fatto invece c'è la fuori la birra, mi fa proprio schifo. Proprio un sapore che a me non mi piace. Infatti quando andavo per esempio alle feste, no? Che c'erano quei gazebi con su scritto chiusa, però se è capitato che c'era scritto Heineken, io ho detto no, io di quella birra non ne bevo. No, non ti preoccupare, tu sei chiusa, anche se il tendone è della Heineken, vabbè. Detto, non mi fido, gli ho detto, vabbè, non ti fidi. Ti faccio assaggiare la birra, mi ha detto, vabbè, sono messo un bicchiere di birra, l'ho assaggiata, ma tu vuol dire? Vabbè, allora mi fido, mettimi il bicchiere della birra adesso. Perché non mi fa male a tutti, mi fa male, invece questa qua non mi fa male di testa, perlomeno, per me non è adesso una bottiglia, massimo due, certo che poi se ne approfitto, ma dopo tre, quattro, là sì. E comunque rilanciamo subito Raggio di Sole, chiedo scusa per averla lasciata in parcheggio. Ti ricordo però Luca che la Heineken, cioè il lupolo. Ti stavo dicendo, guarda che se tu leggi l'etichetta comunque di Knusa, della Dreher e della maggior parte delle birre che vanno per la maggiore, sono tutte di proprietà dell'Heineken, sono tutte di proprietà dell'Heineken, poi sicuramente il procedimento è diverso, però per quello che tu hai visto nel gazebo dell'Heineken si possono vendere di Knusa, perché di proprietà, infatti la maggior parte delle persone pensano di Knusa bionda Sardegna, che sia fatta in Sardegna, è vero, è fatta in Sardegna, però tramite procedimento Heineken, che fra l'altro è di proprietà comunque dell'Heineken, prova a leggere le etichette e me ne dare ragione. Sì, no, allora ripeto, tu penso che hai, diciamo, ne hai bevuto di birra sicuramente, se tu provi a gustare, cioè, penso lo sai che la differenza da Heineken alla Dreher c'è il gusto, lo sai, no? Uno è di frumento, uno è di malto, sai qual è? No, di nuovo, il luppolo, siccome c'è una controversia qua in Italia, il luppolo è quello che serve per dare l'amaro alla birra. Allora, una è ottenuta come procedimento dalla macerazione del luppolo, l'altra del frumento, una è una birra di frumento, l'altra è una birra di Heineken, è una birra, quella che beviamo nella bottiglietta 33 verde, è una birra di frumento. Invece le altre hanno il malto. Qual è la differenza? Il lupolo viene messo in tutte e due, perché il lupolo serve per dare l'amarognolo, ed è quella specie di, ed è una foglia, un ortaggio, se ne mette fra l'altro pochissimo, se no diventano amarissimi. Sì, no, vabbè, comunque, diciamo, il gusto dell'Heineken non mi piace, devo essere sincero, non preferisco, vabbè, l'Heineken è da lì, non... Non mi interessa birre buone, speciali, non l'ho provate, va. Me l'ha regalato pure un amico, una portata dalla Germania, la verità, ma la sono messa in frigo, l'ho fatta rinfrescare bene, bella ghiacciata, ma l'ho bevuta, però non attira, ecco, ormai ho la bocca a parlare alle chiuse e basta. Ma sa la gente c'è così, solo per esclusivamente chiusa, ma neanche morto. Sono abituata con la birra lì e basta. Io sono come loro, idem. Come mi hanno tre birre, magari sarà buona, non lo so. Comunque, se hai un'occasione, tu, la proviamo, c'è problema. Ma guarda che infatti nei paesi qua per la maggiore di chiusa, perché una volta che fai una bocca, la bocca a una birra, è normale che poi sia abituata a quella lì. Raggio di Sole, la sua bevanda preferita qual è? La Ceres doppio malto. Avanti di nuovo. La Ceres doppio malto. Sta urlando. Io, la Ceres doppio malto, le piace la mia signora. Roger, la Ceres doppio malto, la Ceres è una doppio malto. Ceres Strong, quindi. K di Rogero. Che a me piace la Ceres. È una Ale però la Ceres. È una L? Ale, Ale, scritto Ale, è una tipologia di birra. Sì, no, è abbastanza, diciamo, leggermente pastosa, solo che dopo, diciamo, la prima bottiglia incomincia, secondo me, a essere un pochettino pesantuccia. Ma è una birra da degustazione, secondo me, è una delle proprio le basi birra da degustazione. Se no, sì, le chinusa, ma sinceramente mi sta scendendo un po' come birra. Preferisco la Moretti al posto della Lichnusa. Anch'io devo dire la verità, che poi la Moretti lo sai che è stata cambiata negli anni, perché prima la facevano a Udine nella Moretti, adesso si chiama, la vecchia Moretti si chiama birra Castello, e comunque lì che è buonissima, diciamo, e le birre a seconda della stagione buone, niente nemmeno come i vini per quanto riguarda l'abbinamento con i pasti. Si cambiano, per esempio la doppio malto e quelle pastose sono più convenienti nel periodo invernale, mentre invece quelle più leggere sono più estive. Scusate un attimino, riprendi Luca, che faccio una cosa. Sì, vabbè, comunque io non... Poi magari se il vino buono va bene, vino buono che tiene lì Antonella a Rossi. Anche un vino buono, ma si fa anche bene, dipende. Però prima devo riempire lo stomaco, altrimenti io non ne bevo uno e basta, mi blocco. Cioè, ho lo stomaco pieno, allora diciamo che possiamo ragionare, no? Ma la sento lo stomaco, è bello, almeno non dico un chilo di roba da mangiare, ma quasi. Scusami Luca, se mi permetto, non offenderti, ti vorrei dire una cosa, perché ti butti molto la birra? Ma hai problemi di donne? Assolutamente, no, cosa c'entrano le donne adesso? Ma che bevi abbastanza birra? Basta, non siamo due bottiglie che sono a posto io, ma no. È per il periodo, vabbè, già ho giramenti di scatole, tanti giramenti di scatole. Ma le donne non ne ho, però non è quello, cosa c'entrano le donne adesso? E lei sta prendendo riferimento il giorno in cui tu hai chiesto di cercarne qualcuno in paese, io te la sto cercando. Ah, per la verità ce ne sono due in promozione, un giorno te le indico quando vieni in paese e poi ti fai tu avanti, Basta che non soldi, Antonella, non c'è problema, basta non soldi, va bene, no, non c'è problema, la contentiamo subito, ecco, nel senso, non fa intendere, nel senso che vada a fare la spesa, non so, boh, liquidulo la casa, non, le cose più pesanti, ecco, No, diciamo quelle che io ti vorrei consigliare sono abbastanza benestanti, sono numerosi in famiglia, più donne che uomini, e ti dico c'è una che è veramente carina, e so che è scapolona ancora, dunque e stanno anche bene finanziariamente, hanno un buon lavoro e tirano avanti tranquillamente, no, non si dice in frequenza, il giorno che viene in paese poi te la indico e poi vedi tu. Vabbè, la balletta non è che mi interessi più di tanto, perché ripeto, io non è che sia bello, ecco, sono bello dentro, abbastanza, ovviamente con chi merita lo sono, con chi merita neanche bello dentro sono, fatto così, dai. E che già sei bello, non ti devi sottovalutare, ognuno di noi ha la sua particolarità, indistinta e unica, dunque sei bello anche in quello. Non te lo voglio più sentire che sei brutto, Diciamo, ognuno di noi ha la sua classe, ormai. Non c'è neanche a Dio, sono una persona pulita, mi tengo bene, non sono di quelli che si tiene male, sempre sbarbato, sempre ordinato, ecco. Su quello, guarda, non ho problemi, grazie a Dio. Però è una caduta. Guarda, ti posso dire che tra le mani ho una donna, guarda, se tu la vedi, è di Catania, separata da 15 anni, una bella donna, solo che ha qualche anno più di me, è andata quasi innamorata di me, senza aver fatto niente, praticamente gli piace come persona, mi innamoro di fare, è una cosa micidiale, infatti mi scrive, guarda, non mi abbandonare, ma poi si è portata qua a Catania, dimmi tu cosa posso fare con questa, niente, è troppo lontano. E alla fine invitano a scendere qua in Sardegna e vede un po' se gli piace la vita tranquilla che abbiamo qua in zona e vede tutto un po' la situazione, ecco. Ma lei lavora? Perdonate un attimo, perdonate, perché sennò Luca, che è stato il tasto più veloce del mondo, se non parto di minimo sovramodulazione non mi lascia parlare. A parte o barracuda, cosa vuol dire farla scendere qua in Sardegna? Se vi Catania sicuramente deve salire. Catania non so se sai, ma geograficamente è in Sicilia, eh? E dopodiché Luca, questa ragazza se la troviamo gli spezziamo il bastone e gli picchiamo il cane. Perché? Che deve essere giga a dire che sei carino. Vabbè, mica, no, mi piace come persona, non è che gli piaccio, dico, fisicamente. Vabbè, non è che si occupa più un mostro, ma, dico, non conta, conta tutto quello che c'è dentro. Perché lui ha trovato, lei ha trovato una persona che si è frequentata per 3 anni. Questo qua abita in Germania, più o meno l'età sua, no? L'ha presa in giro per 3 anni, promettendo che scendeva. Però questa persona so che la faceva. Diceva, sì, scendo, lui è lì. Adesso non mi ricordo, la Puglia mi sembra che sia lui. Vabbè, lui ci mangiava i soldi, alla macchinette, non so, due ai giochi così. E poi alla fine questa qua si è resa e l'ha mandata in affanculo, scusando il termine. Questa si è rotta le scatole, questa persona qua. E io niente, non ci ho chattato, ho detto c'è una bella maradonna tu, se la vedi, guarda, è veramente bella, proprio bella, fatta bene, a parte che non posso spiegare, comunque la donna è una persona fantastica, guarda. Volta, a parte che stavo scherzando, comunque glielo sai, ma dimmi il nome che me la guardo su Facebook, sulle tue amicizie. Non c'è su Facebook, tanto. Caffa, ma allora stai chattando dove, scusa? È bella, una bella donna, ma credimi. Guarda che è una persona dietro, non so, io dice che sono, forse non è perché mi sono comportato sempre bene. Questo è un programma, purtroppo, tra le persone. Mi senti? Oh, buono, mi sentono. Vabbè, questo programma tra le persone, diciamo, miserabili, ecco. Perché qua puoi aprire la cam, ok? La maggior parte, ti posso dire, almeno il 70% sono tutti maiali. Ti apro la cam e si mettono a mangaglio in mano. Ecco perché adesso queste persone qua diffidano molto, diffidano. E mi ha trovato una cosa una sedia, perché non puoi mai una cosa del genere assolutamente, mai puoi mai. E niente, ci ho chattato, mi ha visto, abbiamo parlato, mi chiama Giuliana, tante volte mi chiama. E non so, dice il numero di fare, mi ha detto che sono una persona brava, una persona onesta. E da lì, non so cosa dirti. Che anni ha? Lei ha 44 anni, io ne ho 37 quasi. Va bene, assolutamente. Falla salire. Guarda, credimi, è una persona d'oro, va. Veramente ha fatto una pena, perché ha sofferto tanto, in amore tanto. Falla scendere, non salire, falla scendere. Vabbè, sai, al momento non mi posso rilanciare più di tanto, perché soldi non ce ne sono, non è che io vado con 200 euro, se vado salgo con un po' di soldi, ma però la possibilità... Ci vado io, mi ospitali, guarda, ti posso dire una cosa Antonio, io quale non ne dico perché non sarei capace a dire le balle. Mi ha detto ti mando i soldi io e mi ospita anche. Ma pensa tu cosa mi ha detto? Aspetta, ti dico una cosa. Se sale lei di. E lo sai che io mantengo le promesse, ti do una casa a Platamona per una settimana. Scusa? Sale lei. Scusa. Se sale lei ti do la casa una settimana a Platamona. Tanto deve salire, non c'è problema, io ripeto, lì voleva venire a conoscermi, ma ripeto, cioè, ti pare che mi mandi i soldi, quando ho i soldi miei vado, io non devo dipendere da nessuno, soldi miei, posso portare anche 1.000-2.000 euro, non mi interessa niente, se vado una settimana mi diverto e poi me ne rientro. poi ne guardo come su di gli altri, non riesco ad andare, cioè mi manda i soldi e poi non più forte di me, io devo avere soldi miei in tasca e faccio quello che voglio. Io arrivo subito, riprendi gli altri. E niente, se c'è questa possibilità che Antonio ti dà la casa, perché no? È anche un modo anche per conoscersi, una settimana possono succedere tante cose, perché no? Vedi un po' di valutare la situazione, siamo ancora in periodo di feste, diciamo, vacanze, è il periodo giusto per portarle in Sardegna, però pensaci, è valutato un po' la situazione, ecco, comunque falla scendere ma non salire. Vabbè, ti rispondo subito, se non mi dà la casa a me, poi mi tocca violentarla. Tocca? Mi tocca violentarla. Ma cosa violentarla, è noi, alla fine poi diventi come quegli altri, quello di 3 anni fa, quello che c'è stato con 3 anni. Tu cerca di essere un gentiluomo e poi piano piano se devono capitare le cose capitano, ma sempre a modo giusto. Come si trattano le donne? Lascia perdere la signora. E niente, valuta un po' la situazione. Dai, scherzata, ci mancherebbe. Ci mancherebbe, no, adesso vediamo, dai, che è un po' adesso anche lì incasinata. Guarda, ho sofferto molto, molto, molto, molto. E vabbè, comunque, ripeto, ha tante persone dietro, tante, tante, e si è appassionata a me. E ti giuro, non gli ho fatto niente. Mi piace il mio modo di fare, ecco, non mi sono mai permesso di dire che ho... non so, dati di male, ecco, non so, ho case, ho macchine, ho quello, perché qua in questo problema ce ne sono tanti. Io qua, io là, e boom, va, io sono bello, però è bello non la prima la cam, perché io manco. Come sono, non è solo, non mi interessa niente, però vi faccio vedere. C'è gente che si spaccia, poi va a incontrare, che magari sono, per carità, non comodamente. È già capitato, ecco, alle persone che stanno qua. Tu almeno dici, sai. Tu buttaci, vabbè, mi assento 2 secondi, arrivo. C'è un capo qua dentro, Simone, mannaggia. Ma Claudio! Scusi, signor Antonio, ma ha sentito cosa ha detto questo ragazzo? Che se la porta su in Sardegna, cosa le deve fare? E lei le dà la casa, ma si rende conto cosa le fa quella povera donna? Cosa ha detto che le faceva? Perché non ho sentito. Ma per me è che non hai sentito. Ha detto che la violentava. Stava. Adesso quando rientra glielo chiediamo. No, ha detto proprio così, ha detto che se le dai la casa che si va lì dentro, non esci più per una settimana perché ci dà che ci dà. Lo so. Voglio sentirlo alla sua voce. Ascolta, ma non ce ne sono altre ruote, cosa stai mangiando? Questelle alla panna, San Montana. No, è una, sinceramente un'azienda che non piace per niente, è troppo zuccherata come gelato, no, non mi piace. Comunque, hai venuto per la voglia, Sicuramente, hai venuto per la voglia, come ti ho pesato il gelato. Io non me l'ho preso. Siamo solo tutti e due in ruote, basta, gli altri ce ne sono andati a nanna. Non vogliono intervenire, giustamente. Se non mi chiamate, no, non entro. Oggi mi compro l'apparato nuovo. Come? Aspetta un attimo che c'è Lioncino. Avanti Lioncino. Ha detto, se non mi chiamate io non entro. Ero in ascolto, ero in aspettativa. Allora, Lioncino, avanti se ci sei, cambio. Cambio, avanti. Antone, lascia un po' di bianco, madonna, lascia un po' di bianco, ma non di vino, lascia un po' di bianco. Stavo dicendo, Leonci, se avessi 1 euro per ogni volta che ti ho fatto la chiamata, adesso mi comprerei l'apparato nuovo stanotte. Cappa. Vabbè, diciamo che tutte le fortune vengono al cieco, hai capito, Antone? Ma dove eri? Guarda che ti abbiamo chiamato comunque, dove eri? Un attimino in QRX, ma senza l'orecchio all'apparato. No, stavo facendo quella questione là che ho telefonato, hai capito? Ma chi sai, no? E c'è l'appuntamento per venerdì alle 6:30 per saldare il conto. Speriamo. Non saldagli il tappo a questo qua, perché si è rotto le bolas. Appunto perciò, e ho detto guarda io non mi faccio il bidone perché sennò lo sa come rispetta, glielo ho detto. Questo cazzo, io le metto la testa, da sopra la metto la testa giù mia, ma no, non mi conosce bene, glielo ho detto. E non siamo le minacce. Attaccato a queste sulle me le sta, sono 2 mesi che sono passati, cazzo, ancora non riesce a darmi questi benedizioni sulle, cazzo. Non ho capito. Stanno arriveranno, bisogna essere fiduciosi. Il barracuda. Manda. Qual è il gelato che ti piace di più a te? Ma la verità non mi piacevano all'epoca il ghiaccio alla menta, però alla fine la vera del dolce mi è passato da un po' di tempo. Nel gelato preferisco, se ne so, una pizza, oppure non lo so, dei gamberoni arrosto, degli anguilli arrosto, ecco, al porto gelato preferire del pesce. Oppure un bel maialetto cotto alla brace, sì, con un bel focarello, con legna di oliva, e lui gira piano piano. La favola infinita. Sì, sì. E sopra ogni 10 minuti, un quarto d'ora, gli fai sciogliere un bel pezzo di lardo, in modo da insaporirlo, con una passata di foglie di mirto, in modo da insaporire bene la carne, dopo ben cotto, una bella crosta croccante, la carne che si scioglie in bocca, un bel bicchierotto di vino, guarda, altro che gelato. Guardi, adesso se ne raccolga la bava da terra, visto che la culina adesso gli sta bagnando le scarpe. Comunque basta dirlo, basta trovare il posto dove fare il maialetto e poi non c'è problema. Trovare uno che lo sappia cucinare bene soprattutto, perché come diceva è sempre attento. Allora, il posto volendoci anche a casa, si può organizzare, perché no, da una pulitina giù e lo sistemo. E vediamo un po' di organizzare, perché non si viene anche Claudio, la signora di Claudio, non è un problema. Ma questa volta andiamo a Chile. Non mi freghi, no, non è che vuoi andare la prossima volta. Oh, questa volta andiamo in campagna, ho detto. Cioè, ci deve essere una cantina soprattutto. Una cantina? E dove la trovi questa campagna con la cantina? Ce l'hai visto. Non t'ho capito, Anto. Non mi freghi, no. Dov'è questa cantina con la campagna? O la campagna con la cantina? Campagna in Quintina, come si vuol dire, di Quintina in Quintina. No, lo organizziamo, non c'è problema, dai, si può organizzare anche giù a Platona da me. L'unica cosa, bisogna trovare qualcuno che sappia cucinare bene. Dobbiamo essere fra maschietti, perché così ci possiamo sbragare. E allora sì. Guarda, intanto Giuseppe Leoncino è bravissimo a cucinare. Non faccio un dubbio, hai trovato la persona non proprio ideale. Non sai cucinare? Scusa, sei un single e non sai cucinare? Sì, a cucinare la pasta, quella roba là, la carne, le bistecche, quella roba lì, sì. Però a cucinare a livello di maialetto è cosa? Negativo. Quello l'ha saputo fare. E tu, Antonio, lo sai cucinare? Sì, io in verità l'ho già cucinato 3 volte, non ho avuto nessuna difficoltà. Ci vuole legna e molta pazienza, diciamo, ci vuole il suo tempo, almeno quelle 3 ore e mezza buone ci vogliono. Non è così tanto difficoltoso, ci vuole solamente un po' di pazienza. E ci può anche fare tranquillamente. Dunque, se si vuole organizzare, perché no? Fatto bene, non c'è nessun problema a fine settimana, almeno un sabato andrebbe benissimo. O una domenica, dai. Però a me piacciono i maialetti, quelli che massimo 4 kg, 4-5 kg. Sì, esatto, non di più, esatto, non di più, perfetti. È la fetta ideale per farlo arrosto, a fuoco vivo. Sì, sì, lui era 4-5 kg massimo, non di più. Possibilmente preso da un pastore, ordinato 1 o 2 giorni prima, anche una settimana prima, è la cosa migliore. Poi per il vino ci penso io. Di Roger, cosa vuol dire che alla carne ci devo pensare io? Tappa di Roger! La mente è fatta, e aiuto. Ecco, no, non c'è problema, si dividono le spese. Tocca a te, perché alla fine sei tu quello che organizza tutta la situazione. Mi raccomando, non chiamarmi 2 giorni prima che vuoi prendere la pizza. Il silenzio radio è eloquente. Ho la pasta al forno. La pasta al forno, mica ti facciano bene bene. Oi, vediamo se è rientrato Luca. silenzio eloquente. Assolutamente sì. Stavo guardando comunque su questo libro, che è il libro che sto utilizzando per, la, per prepararmi per il test come OM. Ti stavo dicendo, c'è la figura dell'irradiazione, la tipologia di irradiazione che hanno tutte le antenne. E stavo guardando, c'è una che a te potrebbe interessare, che ha un'irradiazione particolarmente orizzontale, visto che tu sei alto e a te serve per fare dips, ti dà la possibilità di irradiare sui dai 40 gradi in giù, capito? 40 gradi giù, ma questo tipo di antenna, diciamo, è consentita ai termini di legge per la 27? Mi sembra un avvocato. Certo, ti sto dicendo, è una tipologia, la tipologia d'antenna che, adesso se mi lasci leggere un attimino, ti dico subito quale ti potrebbe servire. È perfetto, per fare, diciamo, dei QSO abbastanza... Camionisti. Ma lascia perdere i camionisti, da poco mi è stata la signora. Francia, Spagna, Inghilterra, diciamo, alla fine dove c'è più propagazione giustamente ne approfitti. Sì, prova a guardare un po', vediamo anche se si può trovare qualcosa su internet di questa tipologia di antenna. Stavo guardando gli schemi di antenne di varie lunghezze corrispondenti ai diagrammi di radiazione. Stavo guardando un'occhiata. Adesso ti dico, dai. Luca, anzi Leoncino, riprendi. Ascolta, tanto scusa un attimo Leoncino, ma questa antenna che tu hai sotto mano, anzi tra virgolette, nel foglio, sotto il braccio, ecco, diciamo come le antenne che utilizziamo noi, diciamo, come forma. Ti fa vedere rispetto un quarto, un mezzo, 5/8 e 3/4 d'onda. Come tipologia di antenna, ti dice che tipo di irradiazione può avere a seconda di come è strutturata l'antenna, però c'è un bel progetto qua che è rappresentata da un'antenna che sembra pari all'antenna UHF che si utilizzava prima per la televisione, che è composta da un dipolo, da un riflettore e da un direttore. Tu immaginati, è una specie di ha tre sedi verticali, o meglio orizzontali, che hanno una certa distanza fra di loro, che qua dice essere 0,2 onda, quindi dovrebbe essere 2 metri e 20 di distanza, cioè uno dall'altro. Dopodiché ha una lunghezza pari a un dipolo, quindi mezz'onda, va un attimino calcolata. Comunque molto bella, molto semplice da fare. Tu immaginati che però il primo dal secondo stelo dista 4,45 metri, quindi non è poco, è abbastanza ingombrante, e questa è una direttiva autocostruita. Non è poco, no, è enorme, porca miseria, è enorme. Il problema è che qua stai realizzando una... dovrebbe essere un quarto d'onda, figurati, una mezz'onda, adesso devo calcolare un attimino. Io ho cercato di realizzare un'antenna quad, però è micidiale, cioè è talmente grande che poi alla fine i pezzi che utilizzi per reggere la struttura si piegano, capito? Flettono, perché quello che devi utilizzare è un qualcosa che non sia... diciamo che non ti distorca l'irradiazione dell'antenna stessa, quindi qualcosa di plastica, che non sia un conduttore, e alla fine si piega la struttura, perché per quanto metti un cavo, alla fine devi mettere un cavo di almeno 3 mm per realizzare questa antenna qua, si piega tutto, perché è troppo lunga, è troppo grande. Comunque mi vuoi togliere una curiosità, c'è una persona vicino, diciamo, a Orsi che dovrebbe lavorare nelle telecomunicazioni, voglio chiedere se, ma io penso di no, comunque chiedere non costa niente, se c'è la possibilità, temi di legge sempre, che per la 27 si possa utilizzare una piccola direttiva, per esempio come la LEM le vendono, la LEM antenne, ci sono due tipi di antenna, una a 3 a 4 elementi, storia mi ha detto che il tema di legge non si potevano usare, ma a volte non costa niente chiedere, le leggi cambiano, anche se Claudio è sempre informato. Volevo chiedere se c'è qualche domandina da fare in modo che abbia la possibilità di utilizzarla. Ecco. Io credo che l'utilizzo dell'antenna in 27 sia vietata per il semplice fatto che non è motivata da un perché, cioè considerando che tu sei nella banda cittadina, all'interno della banda cittadina devi rimanere, come essendo vietato per forza di cose, cosa te ne fai tu della direttiva? La trasmettere all'interno della città? No, assolutamente, uno va in bande laterali, non esci fuori dalla 27, se ripeto sempre temi di legge, perfettamente, rispetti perfettamente le leggi che ti impongono, e tramite quell'antenna lì diciamo hai più possibilità di comunicare diciamo con altri CP di altre, al di fuori dell'Italia, ecco, per avere una ricezione, una trasmissione abbastanza positiva. Tu hai utilizzato malapropismo, che è abbastanza positiva, è più potente. Come l'antenna, tu sei meglio di me che ha dei dB di guadagno, nel momento in cui tu prendi una direttiva che è l'antenna che ha il maggiore dB di guadagno delle antenne, ti ritrovi ad avere un'antenna che ha minimo 8 dB. Significa che moltiplicando l'uscita del baracchino, che sono 4 watt, per 8, 8, 16, 24, 32, stai già uscendo con 32 watt, che per la legge è vietato, cioè non è regolare come uscita, capito? Già là lì, ecco il divieto dell'antenna. Non ho capito dove ti passare. E già da questo calcolo ho detto, questo è già il divieto di utilizzare una direttiva o qualsiasi altra antenna che abbia un ottimo guadagno. Le antenne con buon guadagno ci sono, e con buon guadagno, nel senso che già la Mantova dovrebbe essere un'antenna che ha intorno ai 7 dB. Però se vai a vedere i dB di guadagno nella direttiva, ma soprattutto perché attraverso il riflettore spara in un punto particolare, tant'è vero che tu, attenzione, con la direttiva irradi in una sola direzione, quindi basta che a livello di angolazione le persone si siano spostate e già non ti sentono più come ti sentono quelle su cui si è puntato, capito? Non è una omnidirezionale, è proprio una direttiva, quindi senti e ricevi a seconda di dove punti la direttiva stessa, tant'è vero che la maggior parte di queste devono avere un rotore, perché fisse non servono a niente. E mi ha perfettamente d'accordo, ma per avere più possibilità di qualche cosa un pochettino lontanuccio, tutto lì, anche se la verità mi ha dato dei buoni risultati questa antennina che ho a casa, la verità, perché alla fine non è che sia una grossa antenna con fronte a quelle che sono in commercio, comunque vedo che funge abbastanza bene. Per la legge tu QSO non ne puoi fare, se non QSO locali, cioè aspetta, non ne puoi fare di X, devi fare solamente QSO locali, per questo si chiama banda cittadina. D'accordo, ma se hai un apparato omologato che ha le bande laterali, vai per esempio in USB e trovi uno spagnolo, non puoi parlare con uno spagnolo? Non puoi farlo. Ah, non si può fare, pur avere un apparato omologato, a termini di legge. Io sappia no, perché comunque stai contravvenendo al fatto che stai parlando al di fuori di quella che è la banda cittadina. E ma allora per quale motivo vendono gli apparati omologati, porca miseria, no? Con apparati omologati con bande laterali. Ecco, se hai 40 canali, MFM, USB e LSB, come per dire un esempio stupido, l'ARA 8001 è omologato, ha diverse bande, dunque hai già un apparato omologato e poi non ci puoi entrare, ma che è contro il sensore. Io chiedo se c'è qualcuno in ascolto, QRX, che vuole dare una risposta, assolutamente invito chiunque ad entrare e dare... e illuminarci un attimino, lascio un attimino di bianco, ancora rimasto. Antonio, credo che sia lo stesso controsenso per cui vendono baracchini comunque che non escono solo con 4 watt, è lo stesso controsenso del motivo per cui vendono nei negozi i lineari, Lo stesso, cioè, i controsensi in Italia ce ne sono tantissimi, non entriamo in merito ai controsensi, leggiamo la legge, interpretiamola e cerchiamo di seguirla e di rispettarla. Io lo metto in dubbio, per carità, ma porca miseria, certo che sei proprio legato. Legato a rispettare delle regole, dopodiché nel momento in cui non vuoi essere legato, o meglio, essere un attimino più sciolto, ti prendi il patentino e allora sei un attimino più nella condizione di poter usare determinate cose. Io non metto in dubbio, facciamo il caso che io prendo il patentino, ecco, posso modulare anche in bande laterali? Esattamente sì. Ho capito, anche con un semplice baracchino? Si abilita assolutamente a modulare anche con un semplice baracchino, se vuoi. Ecco, perfetto. E diciamo, io sono disinformato su questo discorso. Per fatto del patentino, è abbastanza... la spesa cosa comporta? Lo economico non lo so, perché devi fare comunque una domanda. Fissano delle sessioni d'esami, credo che siano due all'anno. Bisogna scendere giù a Cagliari, fare fare un esame che è solamente scritto, quindi a risposta multipla, sono dei test a risposta multipla, e dopodiché realmente non so però di tasse quanto si paga. Credo che però non siano così basse, perché sentivo parlare ieri o avantieri in merito a questo, e credo che non siano così basse, tant'è vero che si lamentavano che poi c'era una alta probabilità di non passarlo, ed è la cosa peggiore, perché hai pagato comunque delle tasse, non ti danno altra possibilità se non ripagandole e quindi rifacendo tutta la documentazione. È un po' particolare la cosa. Sappi che comunque a Sassari su 25 che sono partiti sono rientrati 26 bucciati. All'anima, che schifo, guarda, per carità. Credo che poi alla fine quando utilizzi determinati apparati di una determinata potenza, e siccome molti apparati radioamatoriali hanno la frequenza continua, e se non stai attento puoi andare a finire dove non devi, se non stai attento, allora è bene che una persona abbia un certo tipo di cultura, un certo tipo di abilitazione. Ma né più né meno come io l'avrei fatto anche per i baracchini, cioè un minimo, perché poi la cosa bella del baracchino, anzi, il dualismo del baracchino, è che è vero che è accessibile a tutti, però è talmente accessibile a tutti che è accessibile anche alle persone che forse non lo usano nella maniera adatta. Quindi, siccome stiamo parlando di una categoria completamente diversa, che è quella degli OM, ti ripeto, puoi capitare in bande, volendo, dove puoi fare realmente danni, è bene che sia una persona con la testa sul collo e che superi, che sia un esame, che sia una persona che ha studiato e che superi questo esame. Niente fischio. Comunque, fatto sta, bisogna avere sempre, diciamo, la pulce nell'orecchio. Fai che un giorno non ti puoi sbizzarrire, vai. E se facciamoci un giro nelle bande laterali, devi stare col culo stretto alla fine. Né più né meno come quando giri senza cintura di sicurezza, e come quando, cioè, sai che stai contravvenendo alla legge, nel momento in cui ti dovessero scoprire te ne assumi le tue responsabilità da persona adulta. Parte dal presupposto che però le pene che ci sono per nel momento in cui contravvieni a questo tipo di regole, di legge, sono abbastanza severe. Capito, boh, sinceramente non credo di fare male a nessuno, per carità. Per cercare di dare una piccola modulazione che dura anche poco, perché sai benissimo che la propagazione va e viene, non capisco quale sia il danno che uno provochi parlare con uno francese, con uno spagnolo, ecco. Comunque fatto sta, prendiamo un esempio la Spagna, ecco, loro diciamo non hanno tutte queste difficoltà confronto all'Italia. Scusate, posso? Sì. Allora, come intanto posso chiedere a Antonello. Ascolta Antonello, mi dirvi, perché sto facendo tutte figure qua io. Allora, la cottura del porcetto, allora, mi devi far capire come la fanno. Sotto la sabbia, come sotto sabbia, come lo fanno? Non so, è metà la sabbia, boh. Aspetta un attimo. Sì, la devi mettere, se la vuoi fare bisogna vedere sotto la sabbia, cioè devi fare un buco in spiaggia, lo devi mettere dentro, sotterrare e dopodiché aspettare che il sole lo cuocia, piano piano, devi avere molta pazienza, poi con una palettina lo togli fuori ed è importante, perché senti proprio la prelinatura circolare fra i due. Ah, presso lui, mi no, capisco, sì, ma come fanno? Perché lui ha sentito. Guarda, Antonio, spiegami, io sto facendo tutte figure qua. No, assolutamente, come stai dicendo tu, allora, in poche parole, cucinare il maialetto sottoterra, chiamiamolo sottoterra, veniva usato in antichità. Cosa succedevano i pastori affamati? Non so, rubavano qualche maialetto a qualche altro pastore, preparavano un buco nella terra e stavano bene le pietre calde, delle pietre calde, in poche parole, accendevano il fuoco e scaldavano le pietre, queste pietre calde le mettono in questo foro, in questo buco nella terra, facciamo lì il maialetto con delle erbe particolari per insaporirlo. Prima facevano un fondo, pietre calde e delle erbe aromatiche, poi poggiavano sopra l'animale, giustamente morto, poi sopra l'animale di nuovo dell'erba, delle foglie particolari per dargli il gusto, poi di nuovo le pietre sopra e poi dopo le pietre mettevano di nuovo, accendevano di nuovo il fuoco. Dopo 4-5 ore di cottura toglievano, diciamo, la brace, delicatamente toglievano le pietre e si mangiavano il maialetto, che a quanto pare una cosa veramente deliziosa, però ci vuole molta pazienza e bisogna saperlo fare, avere anche delle piante aromatiche scelte. E questa è una tecnica che veniva usata nell'antichità, lo facevano per non farsi scoprire, ecco, alla fine venivano controllati, il fuoco era acceso, non avevano niente, e poi sotto il fuoco c'era il maialetto. Questa è una tecnica. Ecco, vabbè, comunque più o meno, dai, sotto comunque fanno questo scavo in terra, mettono queste pietre, come tu hai detto, lì, diciamo, per cucinare questo porcetto. Vabbè, ripeto, a me non mi attira, preferisco più l'agnello, ecco, dai, non sei sincero, il porcetto ha un sapore che a me non piace, che magari lo prendo fame, lo mangio, ma non mi attira, ecco, preferisco più l'agnello, anzi, guarda, preferisco più il pollo. L'anno scorso l'ha cucinato un amico, fatto sempre con legna d'olivo, ma entro una certa distanza girava delicatamente, ripeto, con lardo che leggermente si toglieva sopra l'animale. Guarda, era un burro, non so cosa vuol dire un burro, molto più morbido, si toglieva in bocca la carne, una cosa spettacolare, guarda, si è cotto bene, è una meraviglia. Giro di un quarto d'ora non c'era neanche le ossa, c'erano. Comunque, Saudi, come stai dicendo tu, Luca, e come ti ha spiegato Antonello, è un tipo di cottura che facevano nell'entroterra, soprattutto nella zona del Nuovese. Poi il maialetto non va cotto così, anzi adesso stanno prendendo anche in giro i turisti perché gli fanno credere che l'hanno fatto sottoterra, invece prima l'hanno cotto normalmente e poi lo infilano sottoterra quando è già mezzo cotto. Comunque il maialetto si deve cucinare a fuoco lento in modo tale che cucini la carne e dopodiché gli dai un'ultima botta per fargli fare la cottena croccante e lì la cosa è fatta, lì più o meno come fai una fettina di pancetta, capito? Comunque più o meno, dai, io volevo intendere tu, quello cucinano verso, cioè questo coso, non so come lo chiami tu, no? Dei cavalletti, no? Lo fanno, lo vanno a vela, piano piano, girano. La cottura, come ha detto Antonio, lo mettono in terra, ecco, fanno questo scavo, e quello intendevo dire io. Però, diciamo che ho fatto una figura di puntini puntini, no? Penso che abbia capito, comunque glielo spiegherò meglio, ecco, dai, almeno capisco. Sì, ma di chi stiamo parlando? No, scusate un attimo, c'è la mia signora che vuole intervenire un attimino, prego, su Patrizia. Tu, signor Antonio, gli rammento una cosa, gli ho detto una cosa poco fa, no? Gli faccio una domanda fatidica al signor Luca. Cosa dovrebbe fare quando lei gli dà la casa? Cosa gli devi fare? Il maialetto? No, dai, scherzavo, voi usare. Sì, il maialetto con gli oliva, tu. No, qui non è quello il problema della casa. C'è il resto, Dianto, non è un problema. Abbiamo preso con un'amica lì, che cosa l'ha conosciuto? Lì a Platana una, vabbè, l'ha fregata proprio in pieno. praticamente ha preso la trovata lì subito .it, l'ha chiamata, perché la proprietà era una donna. Comunque se ne è occupato lui, mamma mia, l'ho visto l'altro giorno, mamma mia, ha fatto marciare la moto, la cattagna, un colpo a testa, praticamente gli ha fregato 700 euro in due giorni a sto scemo, hai capito? E ha detto che, ha detto tante cazzate, non so, ha chiamato un furgone per far sgombrare un po', c'era un po' di roba dentro la casa, non so, boh, perché la casa è piena. Perché ha regalato, quella ne ha cosa portato via il furgone. Mi ha fatto pagare 50 euro di furgone quando il furgone non è mai venuto lì dentro, mai, in quella casa lì. Vabbè, comunque se gli ha fregato 700 euro due giorni. Va bene allora, perché se era così birichino sicuramente gli poteva uscire peggio. Avanti, barra e cura. Ma fra l'altro tu lo sai cucinare questo porcetto, sì o no? Sì, che lo sa cucinare, però se non lo dice, però lo sa cucinare. Comunque mi sono espressa male poco fa, Luca doveva fare un lavoretto con la sua signora nella casa di Platamona, che a noi ha specificato, però lei, il signor Antonio, non ha seguito. Quindi Luca, ti prego, spiegaci cosa dovevi fare a Platamona. Non violentare. Io ho detto che non la violentavo, ma scherzavo, ci mancherebbe. Ci mancherebbe, ok, vabbè, no, guarda, brava persona, non è vero Antonio, tu lo sai forse mai meglio di me, io su internet ci giro, boh, 3 anni, e mi ho conosciuto pezzi di puntini, e non è facile trovare persone, diciamo, buone, ecco, dai, questa persona veramente è doc, ma credimi, doc. Credo, sì, credo, perché cioè, anche in posti come possono essere internet e le varie chat c'è la possibilità assolutamente di trovare persone in gamba, assolutamente sì. Mi è capitato ed è vero, l'importante è che ti comporti tu bene, poi a figura, però che poi sia pieno di animali non v'è dubbio, anzi è proprio per quello che io preferisco il baracchino al DC, perché quantomeno ce ne sono di meno al baracchino, capito? Scusate un attimo, io vi lascio, vado a nanna e ci sentiamo nel caso domani, buon proseguimento e buonanotte, mi saluto anche la mia signora, e domani, dai, buonanotte e buon divertimento. Vai Roger, 7351, ben sentito, ben ascoltato, buon QRT 144 quando lo farai. Buon trabacco per domani mattina e ci sentiamo tutte le prossime, Antonio. Ciao ciao, grazie per il consiglio. Ciao Antonio, buon 144. Buona giornata per domani, saluto anche la signora. Niente, alla prossima, ciao ciao. E io, ciao, ci sentiamo domani allora. Buonanotte, come va? Aspetta un attimino, infatti io volevo lasciare come ciliegina sulla torta, assolutamente. Raggio di sole, subentrano le tenebre nel momento in cui te ne vai, vabbè, cosa facciamo? Ci addormenteremo con la speranza di domani che tu ci rillumini, perché stai entrando davvero poco, a questo punto necessita che tuo marito ti compri un baracchino tutto tuo, assolutamente. Comunque, buon 144, ti ringrazio per essere entrata e ti ringrazio anche per il QSO, ci sentiamo. Speriamo domani verso 7-8 come al solito. Grazie anche a lei, buonanotte, però è molto gentile, troppo lusinghiere le sue parole sono state nei miei confronti. La ringrazio per avermi detto questa bella, la ringrazio di avermi detto che devo entrare nel baracchino con voi a parlare, però da oggi mi sa che Raggio di Sole non illuminerà più la 27. C'è un motivo? Senza baracchino, non me lo vuole comprare. Taccagno, che taccagno, guardi, gliene do uno dei miei, assolutamente. Poi cosa vuol dire? Ma perché il baracchino che c'è lì, qual è quello che si porta in macchina? No, se l'ha portato in macchina, ne ha uno qui, io volevo un altro e lui me l'ha portato via. Se poi lei è così gentile a darmelo a me uno, ci sto molto volentieri. Assolutamente sì, grazie, cosa mi vorrebbe fare? Lo scelga, guarda, io le faccio, o le mando le foto oppure dal suo 50 le faccio portare qualcuno degli apparati che ho, lo sceglie e lo può assolutamente detenere, ma mi so che è una curiosità, lei la concessione l'ha pagata? Certamente, eppure se non la pago problemi non ne ho. E non le bussano la porta? No, oh, non me la bussano a me la porta, io le spalle ce le ho coperte. Quando vuole le faccio avere una, la scelta degli apparati, assolutamente. Buonanotte. Comunque sto aspettando, l'ho pagata. La ringrazio, gli do la buonanotte, si copre bene, si ha mangiato e stia attenta all'umidità, perché domani deve essere bello, la sua voce deve squillare nella 27, mi raccomando. La sarò sempre, come sto parlando in paracinese, e sarà così la mia voce, assolutamente, lo sarò, nel senso che sarò squillante. Ho sentito una persona sotto, scusatemi un attimino, avanti l'amico che sta chiamando sotto. Antonello! Scusate, ripeto anch'io che domani devo stare presto e sono un po' stanco, dai, non so neanche dormendo la notte. Meno molto poco e niente, tanto ma prossimamente anche a te, buono 144 quando vai a dormire, ci sentiamo domani con più calma. Buonanotte a tutti, a domani, ciao. Grazie Luca, ben sentito, ben ascoltato, anche a te con 144 quando lo farai con QRT, ci sentiamo alle prossimine. Avanti gli amici che sento in sottofondo. Avanti. Dimmi amore mio bello, dimmi. Chi sei tu? Dimmi, chi sei? Non lo so, dimmi chi sei tu, buonasera e ben sentita. Sono tutta sciolta. A parte gli scherzi, buonasera, Antonello Barracuda, il tuo nome in attivo per cortesia. Sì, Barracuda, avanti. Il tuo nominativo per cortesia. Il tuo nominativo per cortesia. Entra Antone, sulla cortesia. Stella Luminosa, ben sentite, buonasera in compagnia di Antonio Grode. Avanti Antonio per Stella Luminosa. Si sentite, ben ascoltata, siete 351 da questa parte, stazione Grode, modulatore Antonio. Che ti dà il benvenuto sul canale 10 e fai un passaggio un attimino più lungo della Luminosa, perché non eri molto convinta né del passaggio che hai fatto né tantomeno del tuo nome di stazione. Avanti. Negativo, mi sembravi un attimino titubante, vieni avanti, fai un passaggio, presentati. Me Antonella, quella di Porto Torres, Matti, scusa, di Pratamona. Dove stai modulando della Luminosa? No, quando poi la stella si è spenta. Antonella, chi è Antonella? Scusa, perdonatemi, non so chi sia Antonella. Antonello, conosci Antonella? Sinceramente dovrebbe essere quella di Porto Torres, ma porca miseria, Porto Torres, quella che la sento sempre da Pratamona, se non sbaglio, vero Antonella? E allora da Rove, scusami se ho sbagliato, dove stai modulando? Ok, perfetto, ti chiedo scusa. Dove stai modulando, Antonella? Ah, perfetto, infatti ogni volta che parli ti attacchi, ben sentita, buonasera. Va bene, io vi devo lasciare che devo andare a nanna. Ti lascio in compagnia del signor Antonio, che è una persona molto gentile e ti fa compagnia, non c'è nessun problema, sei in buone mani. Comunque Antonio, prima di lasciarti, la mia signora mi ha chiesto che apparati c'ha Antonio, e gli ho fatto il Kenwood. Io ho parlato di baracchini, a parte che io non ho Kenwood, non possiedo Kenwood, ho solo baracchini, perché sono abilitato all'utilizzo di baracchini, quindi la metterò a scegliere tra i baracchini che ho. Ah, scusami, allora l'Intec con 400 canali, così è Patrick? No, Intec. Mantec con 400 canali, perché le ricordo che i baracchini ne hanno 40, quelli omologati, quelli da 400 ce li avrà lei, io non tratto questa roba. Venga avanti con un'altra domanda. Allora, ti chiedo scusa, allora il Midland ha 44 con 800 canali, quello va bene? Oh yeah, i 400 canali, vai a letto, vai che è meglio. Vabbè, allora quello da 23 canali, dai, va bene quello, va bene quello da 23 canali, Patrick. Quello devo scegliere io, giusto? Devo scegliere io, signor Grobbe? Roger, fate, andate a coricarvi famiglia Barracuda, io. Va bene, no, sto scherzando. D'accordo, buonanotte, raggio di luna, così era. Raggio di stella luminosa. Ah, scusa, stella luminosa è Antonio Grodo, dai, buonanotte, sogni d'oro. Roger, grazie, mi sentite ben ascoltati a tutti e due. Stella luminosa, 5 minuti di QSO, dopodiché ti devo lasciare anch'io. Vieni avanti di nuovo. Mi fa piacere che 5 minuti passino così velocemente nel suo orologio, però se è questo che vuole la saluto anch'io. Volevo sapere esclusivamente dove si trovava. È un segnale Morse? Buonasera a tutti. Ehi, è un segnale Morse, avanti, buonasera. Avanti l'amico. Se mi danno un posto di lavoro ci vado. Assessore, da che cosa lo desume? E ultimamente ho staccato la webcam dal baracchino. Ma parlo come loro. Insomma, mi hanno dato del carabiniere, quello dell'assessore mi mancava. Io la ringrazio, non so se sia un insulto o un complimento, comunque grazie. Allora, poi mi scrivi, un assessore, ti ha scoperto Antù, sei l'assessore di Ottiri, ti ha proprio sguardo, questa volta la prima persona che ti ha fregato, sono contento. Io fa parte quelli del trenino, lui, capito? Parte di che cosa? Ma chi è? Domì? Io non fai parte di quelli che hanno fatto il trenino, io. Bunga bunga, però io facevo il camioncino del carbone, quello che sta per ultimo. Questo non è facile la locomotiva. No, no, no, no, non mi piace fare la locomotiva, no. Non sono il tipo, non c'ho l'aggancio giusto. E comunque, Antù, guarda che il carbone sta attaccato alla macchina motrice, non è dietro. Le fate i suoi lì, per cortesia. Avanti, Antonella. Dimmi tu, assolutamente, dimmi dove ti trovi e soprattutto cosa fai nella vita. Purtroppo sono vecchio, quindi non va bene. Se volevi un nuovo amore, guarda, è appena andato via Luca, e lui sarebbe stata la persona ideale. E io? E Antonello Barracchiuda. No, non sono sposato Antonella, poi mi chiamo anch'io Antonello e Antonella, siamo una bella coppia. Quando ci possiamo incontrare? Mai dire mai nella vita, ricordatelo, mai dire mai. Chi è l'apparato con cui stai modulando? Attenzione, ti dicevo, l'apparato con cui moduli, di chi è? E perché sai, manca, cioè, il tempo di reazione sulla portante è un po' lungo, è come se ti suggerissero le risposte. Che assessore a questo punto è ispettore, direi, però così mi sembra. Sembra un po' male. Ma ce l'hai in barra mobile il baracchino? Certo. Il tuo QTH dov'è? Thank you. Grazie. Nonostante il signor Grosso, sai perché è un bell'uomo. Antonella, io so che tu sei insieme al tuo ragazzo in macchina, eh. Io sono proprio davanti a te. Guarda che io scelgo gli occhiali, sai? No, proprio ne hai bisogno tu. Proprio non lo so del signor Grosso, che è un bell'uomo, sai? Per viene avanti, dove? Nella zona di Tula, hai capito? No, non mi ricordo adesso, un paesino attaccato sopra Tula, capito? Chi è Antonella? Io non ne più. Antonella, ma davvero sei una CB di Tula? No, a parte che si è permesso esclusivamente di immaginare dove potesse essere il tuo QTH. Trattate una parola grossa, dai. L'amico Domenico stava dicendo che tu eri di Tula, è vero? No, ho detto telefonato. Ma ho capito cosa hai detto. Se interessamento perché nella CB il piacere di conoscerti è anche quello di superare determinate distanze per fare un attimino di prove, per vedere un attimino come gli apparati stanno funzionando. Quindi ci si scambia le coordinate del QTH al fine di sapere come stiamo arrivando in quel posto. Tu dove sei? Mi dici che sei a Gavoi perché non ci devo credere. Evidentemente sì, sei a Gavoi, mi fa piacere che tu sia a Gavoi perché è un bellissimo paese. Come, non ho capito. Tu lo conosci, sentimi, se sei di Gavoi, lo conosci Angelo Licheri? Però se non conosci Angelo Licheri mi sa che non sei di Gavoi. Ah, invece la verità qual è? Sei di Fattata invece. Fattata. Hai sentito Fattata? Ah, sicura sì che sei della Sardegna, sì. Tonello. Mi sento fattata quella che ti dica. Ma neanche la verità, dove si trova? Un posto lontano, proprio il vizio di coltivare patate e coltelli per sbucciarle. Ah, ho capito, ma dove si trova in Sicilia, non in Sardegna un po'. Rogero, quella è patata. Ah, Sant'Antonio mio, caro. Comunque, Antonella, pure che siamo curiosi, no? Tu sicuramente sei di Sassari, sì, entri una volta ogni morte di Papa, quello sono d'accordo, ma alla fine dove ti trovi? Scusami se non mi hai sentito, ripeto, che sei sassarese sono più che convinto, ma dove ti trovi in questo momento? Perché sei fermo in macchina, non stai viaggiando. Ah, perfetto, lasciami smettere che le segrete le ho finite. Allora, ma sei di Sassari, sì. Aspetta un attimo, io credo di aver sentito questa modulazione, se non sbaglio, era di tale antenna 1, è possibile? Se così mi ha silurato, pum, affondato. Un incrociatore mi sa, questo era un incrociatore, secondo te Antonio era l'ammiraglia? Sì, sì, qui a quanto pare stiamo giocando alla battaglia navale. Non sbaglio, era la modulazione di tale antenna 1, sbaglio? Secondo me, guarda, il segnale, se la mia memoria funziona ancora bene, sì, perché anche davvero, poi a me mi arriva sempre un Santiago di 5 e una radio di 3 qua in paese. Potrebbe essere quella di antenna 1, sì. Enico. Enico. Ma tu come lo compi l'amica? Dove ti trovi, dov'è? Io l'ho presa lì, non so che ho conosciuto di Tula, però è presente da Tula, soldi per Chiaromonti, quel paesino di male sopra, ti ho già parlato, hai capito? Ai, allora ti abbiamo scoperto, Antonè esci fuori dall'anonimato. sei di Tula. Sì. Da brava Antonella, fai da brava Antonella. Sopra Tula c'è un paese in massa Giorgina, è lì. Ma di Roger, comunque è un piacere, dai, parlare con te Antonella, sei simpatica e stai allungando il QSO e questo può essere solamente piacevole. Anche la mamma. Ma quanti hai? 72. In contrario, 72, 27 ne ha Antonio. Quanti ne hai? Non lo so, ma quella è la persona che hai a fianco, sto chiedendo. Scusate Antu, però mi dimentico, adesso mi ricordo il tuo amico che è lì a Pedanieta, scusami, mi è passato di mente il nome. Comunque vi saluto, buon questo con Antonella, divertitevi, buonanotte Antu, a domani, divertiti, assessore. Pubblica distruzione, ben sentito di nuovo, e buona cosa, vai e cocca, arriverò. Antonella? Yeah. Hai detto quanti anni hai? Io. Oh, la persona che sta a fianco a te. Ma no, allora stiamo dicendo, se non c'è nessuno, perché mi continui a chiedere io? Cosa voglio sapere, l'età del baracchino? Ti faccio i miei complimenti perché quanto io dico stronzate invece tu sei educata. Ma niente, accetto le scuse, comunque rinnovo il sentimento di simpatia e ti lascio con in compagnia di Domenico. Domenico. Positivo. Ma stai agganciando per iniziare? No, sto finendo, sto pomeriggio. Padomi, dai. Allora ti lascio, buon QRT quando lo farai, buon 144, buon fine di trabacco e ci sentiamo alle prossime. Antonella, è stato un piacere sincero da parte della stazione Grodda e modulare con te. Grazie per il QSO e spero di risentirti al più presto. Ciao, QRX per me, anzi QRT per me. Ciao, ciao. Ciao, signor Grodda. Il sole. Attento, Antonella. Parlo, non prendere. Era mia amica da 2Z, dai, da 2Z tua, dai, non era la mia che siamo solo noi due. Di dove sei, dimmi? Siamo solo noi due. No, vero, non c'è più nessuno, non hanno chiuso loro due. E la maglioretana, Z, scaloni, sì. Torrete. Ma è una parte di scherzi. Da dove stai modulando, dimmelo a me. Hanno chiuso, vedi che intanto non ci sono. Non ti copia bene, alza il volume del tono della tua voce. Ma non te la trovo a te adesso, non stavi in macchina. Vabbè, alzi i finestrini, no, ma alzi un po' il tono della voce, scusa, Ma io non me ne mangio, Parlo così. E tu conosci mio marito, vero? Vabbè, sposato, no. Diciamo. Conviviamo. Prova, sta proprio che lo conosci, cioè lo conosci. Ci parli. Ah, quindi da dove moduli tu praticamente? Oh sì. Vero, mi stai prendendo in giro. Blue Star. Sei troppo bassa per essere a Blue Star, scusa, Siamo vicini a Blue Star. Ho tre amiche con te, che vanno a Blue Star stanotte. E ci macchine? E tu sei insieme a quante ragazze in macchina adesso? Ah, un'orgia proprio stanotte a bussare. Cosa fate al bussare stanotte? Quanto hai detto? 25 uomini e quante donne? Certo che tu con le parole non scherzi. Me ne sono accorta. Tu me lo fai da Piusu? Chi la salonga da Limba? Voi te lo fai da qua? Senti, sei tu che lo fai pensare che sei lo sei, scusa, io sto parlando educatamente, sei tu che fai determinate parole che non dovresti fare. Ma tesoro, sono italiano? scusa, un tocco piatto. Ti cazzo tra la mano. Non mi racconti niente di te, quanti anni hai, con chi sei, dove vivi, se sei sposata, se sei accompagnata, se sei sola. Perché mi danno gli anni. Io non dico la mia età, sono gli altri che dicono che quanti anni. Ma perdonami, adesso mi senti? Chiedo quanti anni hai, se sono, se non ti spiace, se non sarei mai educata a chiederti l'età. Le mani si usare abbastanza bene. Guarda che è abbastanza bene quel microfono. Tanto urli meno caro. Tanto devi fare che non tanto urli, ti fai sentire. Allora, ti auguro la buonanotte Antonella, buon divertimento a Blue Star. Ci sentiamo alle prossime. Lo usare. Vieni tu. Così mi impari tu, no? Ma vieni! Perché non vieni, scusa? Non mi offendo, sai, io non sono la tipa che si offende, anzi, così ci conosceremo. Sì, ti faccio anche il caffè se vuoi. Vi attendere numero 17, o oh sì. Vi attendere 17, o oh sì. Mi sento scema, sai.